e tanti giornalisti illustri come Curto Martese, Filippo Facci, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani, tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Maria, sono indignata per tutto quello che ha detto il Papa oggi. Doveva prendersi tutti quegli immigrati e portarli in Vaticano e tenerli lì. Noi abbiamo il primato dei suicidi, chiaro? Perché non abbiamo lavoro, perché gli imprenditori si ammazzano. Volevo solo dire quello, grazie. Va bene, grazie a lei. Male un dito, e il dottore ha detto già, basta fare una puntura e tutto passerà. Io vorrei che lui è andato lì, adesso con la Papa Mobile e quella di Fortuna lì, che si fosse portato lì una cinquantina, un centinaio di pullman, che li avesse caricati e se li fosse portati in Vaticano, non come ha fatto Duce quella volta che ha detto armiamoci le partite. No, no, diamo l'esempio, un bel esempio, ognuno se li porti a casa sua, come quelli di sinistra che li amano tanto, talmente tanto, che però nessuno ne vuole avere uno a casa sua o vicino a casa. Grazie, ascolto per Radio Pollo. Radio Padania dà il meglio di sé, caro David. Questi alcuni degli ascoltatori che sono intervenuti sulla visita del Papa a Lampedusa. Devo dire la verità, il Papa fa il Papa. Poi però la politica è un'altra cosa, perché che cosa dovremmo fare? Accogliere tutti? Non dico che hanno ragione questi qua che sono intervenuti a Radio Padania, però il Papa fa il Papa, non è che ci dà lezioni su qualcosa, su che cosa la politica dovrebbe fare, semplicemente fa il Papa. Però noi non possiamo accogliere tutti, no? Chi se li prende poi? Chi se li prende? Qualche monsignore? Qualche monsignore? Ma che razza di ragionamento è? Ma che razza di ragionamento è? È l'unico ragionamento possibile. Ma ti pare che... Volete sapere cosa succederà da domani? Dopo la visita del Papa? Grandi titoli sui giornali. Grandi titoli sui giornali. In realtà nulla. A meno che non si avveri la profezia. La profezia di Bisignani, proprio qui alla Zanzara, quando dice il Papa a Lampedusa arriveranno rifugiati. L'immagine di Papa Francesco a Lampedusa, che noi vedremo lunedì sera, sarà un'immagine fantastica che piacerà alla Boldrini, che piacerà a tutti. Però? E piacerà soprattutto a tutti quei poveri disperati nordafricani che stanno lì, rifugiati dalla Siria, dalla Libia. Dalla Tunisia, e che verranno tutti in Italia perché vedono il Papa che li accoglie. Senti Pannella, il ritorno di Pannella, caro Parenzo, il ritorno di Pannella. Dove? Senti, a parte che non si sente un cazzo come al solito la tua voce, Nonne di 30 anni fa, sei come in una bolla, sei come in una scatola vuota, ma lasciamo perdere. Pannella, nonne di 30 anni fa erano una bellezza in nero, oggi sculettano, Pannella strepitoso. Quando noi vinciamo, non vinciamo contro, vinciamo con, noi convinciamo. Ma questo la gente l'ha sempre saputo, detto le nonne di 30 anni fa, non quelle di adesso, devo dire, sono una bellezza, dico così, eccetera. Ma le nonne di allora, vestite di nero, con rosario, sono loro che ci hanno capito, e i nipoti hanno capito grazie alle nonne, perché le cose che noi poniamo sono problemi della ragionevolezza popolare. Ma che sta di a Pannella? Ma tu l'hai capito, Pannella? No, dai. Non ho capito a cosa si sta tutto. A chi si riferiva. Ma va bene tutto, dai. Il Papa ma a Lampedusa. Cosa si riferiva in ma particolare? Che ne so, ma non lo so. Ma le donne di 30 anni fa, la bellezza. No, il forse nero, l'idea è che le donne prima erano donne reazionarie contro le quali si educava, e dire oggi invece noi radicali diciamo che le minigonne, ho capito. Lo so, ho capito. Senti questa qua, l'onorevole Sibilia no, ha combinato un'altra delle sue, è quello dei microchip del 5 Stelle. Sì, ne ha detta una grossa, ma ne ha detta una grossa. Ma li presenti come fosse Kissinger, cioè parli di questa gente come fosse Kissinger. No, ma io non ho detto volta che sono Kissinger, tutt'altro. L'onorevole Sibilia ha detto una cosa colossale stavolta, ha cercato poi di rimediare dicendo no, bisogna interpretare come al solito. Ha detto che il famoso Restitution Day, questa colossale, dico io, buffonata del Movimento 5 Stelle, cioè la restituzione della parte della diaria non spesa, è l'evento più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino. Cioè, a parte che evocare gli omicidi di Falcone e Borsellino paragonandoli alla Restitution Day, una roba che dovrebbero andare i carabinieri, signor Sibilia, senta, venga qui con noi, venga qui perché lei ha bisogno, più che i carabinieri, gli infermieri, no, direi, gli infermieri. Ma immediatamente, il primario ma sì, di psichiatria. Ma sì, il primario, ma tra l'altro questo Sibilia è lo stesso, come ben ricorderai tu, che insomma evocava Bilderberg, dicendo signor Letta, lei andava al Bilderberg. Sibilia, un mito per me ormai, perché se non ci fosse lui. Ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Ne parlate mai alle riunioni del club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fate parte. Vabbè, insomma, è quello dei microchip, è quello del Bilderberg, è quello di Snowden, la spia, chiamiamola così, americana, che è un pentito di mafia e bisogna proteggerlo, eccetera, eccetera. Sono talmente incapaci che sono capaci di tutto, questo è il tema. Di Senti, però abbiamo già un grande ospite collegato, preparati Parenzo. Beh, il corpo delle donne, la pubblicità. Sai che ci sono 4-5 senatrici del Partito Democratico che hanno proposto un disegno di legge ridicolo. Vogliono bloccare la gnocca, come titolava Libero l'altro giorno. Vogliono proibire il nudo femminile nelle pubblicità, che è una delle cose più straordinarie che il mondo moderno e contemporaneo abbia scoperto. Più straordinarie. Sì. Ebbene, senti, la signora Zanardo, che è una di quelle che, no, interviene sempre con la sua prosopopea su queste vicende. Ha fatto anche un documentario importante. E io aggiungo, e chi se ne frega, la donna oggetto è una delle cause della violenza. Quello che le immagini oggettivizzanti della televisione, della pubblicità, dei media in generale fanno è rendere la donna oggetto, rendere la donna cosa. Questa è una, non la sola, perché non sarebbe corretto, è una delle cause della violenza. Oliviero Toscani, buonasera, ciao Oliviero. Ciao a tutti. Come stai? Stai bene, cioè, però vi ho ascoltato un pochettino qui. Certo che voi sparate sull'ambulanza, insomma. Andate in che senso? Andate a pigliare Pannella e dite, il povero Pannella dice noi pigliamo il consenso, 0,6%. Io gliel'ho detto, ma ha sfasciato lo studio quando gliel'ho detto. 0,6%, io continuo a dire che c'è qualcosa che non va. Se uno continua a parlare in questo modo, nessuno. Ma se uno continua a parlare in questo modo che la gente non capisce, non ammazza. Almeno non si capisce niente. Tu dici che è meglio non capire niente, dici. Senti una cosa, Parenzo, Oliviero. Come sta Parenzo? Collaborazionista della RAI. Collaborazionista. In che senso? Bene, collaborazionista? Caro, tu? Collabora con la RAI. Sì, collaborazionista, hai detto bene. RAI 3 poi, sei con la collega, con la Zarina. Lazzarina, sì. La Zarina Berlinguer, ma sì, adesso ha finito però Parenzo, ha finito bene il discorso. Ma è bravissima Bianca, è adorabilmente brava, è vero, bella, una delle più brave direttrici del giornale che... Vabbè, per Parenzo adesso sono tutti bravi, basta che lavorano per quelli, per gli amici suoi. No, ma tra l'altro mi hanno spiegato le ragioni della diatriba. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Voglio chiedere una cosa a Toscani. Toscani e la signora Berlinguer, me l'hanno spiegata. E che diatriba c'è? Un'ora e mezza di trucco la signora Berlinguer prima di andare in onda. No, mi hanno spiegato che... Un'ora e mezza. E vabbè, pazienza, perché uno non può fare 2 ore e mezza di trucco? No, va bene, tutti i giornalisti. Ma in realtà Toscani voleva fare uno studio tempo fa, mi hanno raccontato. No, l'annunziato voleva farmi fare uno studio. Voleva fare tutto bianco e volevi far entrare la signora Berlinguer con degli zoccoli bianchi. Giustamente si arrabbiata. Ma non dire stupidaggini. La signora Berlinguer voleva alzarsi perché la telecamera era troppo alta e le gambe gli diventavano corte, secondo lei. Non è vero. Non è vero. La lunghezza delle gambe. Come non è vero? Mi hanno detto che volevi farla entrare con degli zoccoli bianchi e giustamente no, la signora Berlinguer. Allora mi fa molto piacere che lei si sogni di me di notte. No, non si sogna, non me l'ha detto lei, me l'hanno detto altre persone. No, ma non è vero, ma figurati, doveva fare presentare il telegiornale stando in piedi, andando da un vidivolo all'altro, spiegandole la contemporaneità dei fatti. Ecco, e allora perché non lo voleva fare? Perché diceva che la camera era troppo alta e lei diventava piccola, le gambe si accorciavano. Scusa Oliviero, hai sentito queste qua del Partito Democratico che sì, vogliono fare vogliono proibire le donne le mezze tette di fuori, le gambe? Gli bisogna spiegare a queste qui invece che ci sono delle donne che godono a farsi vedere, a farsi fotografare, certo, a farsi guardare. È chiaro, allora lei questa qua cancellerebbe tutta la pittura del Rinascimento, i Goya, tutti i grandi pittori che hanno dipinto donne fantastiche. È che loro forse sono brutte e non vogliono allora far vedere il corpo. No, beh, certo, a guardarle in foto, caro Oliviero, non posso darti torto, però non vogliamo fare... No, ma io non voglio neanche far dare un giudizio. Ma come fanno a dire una cosa così? A parte fatto in pubblicità, ma guardino la televisione, guardino i giornali di moda che invece seguono così profondamente e cercano di essere alla moda. Guardino i giornali di moda, che disastro! Comunque, secondo loro queste immagini incitano alla violenza, alla discriminazione, tutta la solita prosopopea, due palle. No, la violenza viene incitata da queste qua che sono fanatiche, no? Ma è chiaro che esiste una volgarità su tutto, ci sono delle donne vestite che sono molto più volgari di tante donne nude. Bravo, bravo. Oh, mamma bravo. Mia, proprio molto più volgari. Bravo, bravo. Che hanno, bravo. Devono avere tutti i marchi alla moda, l'ultima ma moda, come mai la borsa, la borsa da 6.000 euro, devono avere il trucco. Devono avere i tacchi di 15 centimetri, devono avere il marchietto, come si chiama, dappertutto. E qual è la volgarità? Allora, intanto mi segnalano che quello del microchip non è a Sibilia, ma è Bernini, ma insomma vanno sempre in coppia, è Sibilia e Bernini, 5 stelle. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Fatemi sentire un altro di Radio Padania oggi sul Papa, dai, su, che io devo dire la verità, su questo buonismo diffuso di oggi sulla visita del Papa sono quasi d'accordo con questi qua, e lo dico proprio papale. Crociano, hai torto. Perché ho torto? Spiegami, perché? Non è che hai torto, hai ragione, il Papa deve fare il Papa, e poi che vengano, il Papa fa il finalmente Papa, ci sarà in proposito, guarda la Germania. Quanti come che vengano? In che senso che vengano? Sono diventati tedeschi e la Germania è diventata forte per questo. Guarda gli Stati Uniti, un paese di migranti, tutti, e per quello sono noi poveri italiani, tagliotti, tristi, teleidiotizzati, basta. Ma io, che devono venire in massa, dici tu, che vengono in massa. Dobbiamo diventare una minoranza. Vabbè, dai, Oliviero, su una minoranza. Ma vengono i delinquenti, ma è pieno di... Ma guarda la Germania, guarda la Svizzera. C'è una proporzione di stranieri immigrati altissima e noi per 3.000, 5.000 facciamo delle scenate. Vabbè, ho capito, ma 3.000, allora, 5.000 una volta, 3.000, 5.000 un'altra. Il problema della Padania è che c'è una maggioranza di padani. Dici che il problema è che sono troppi padani. che sono imbecilli. Vanno migliorati. Che sono imbecilli, dici tu, la maggioranza. Insomma, comunque Balotelli segna lui, Al-Sharawi segna lui, insomma. Guarda la squadra francese di calcio. Nel 73 c'era un solo bianco, adesso c'è... No, nel 73 c'era un solo nero, adesso c'è un solo bianco. E allora, questa è una bella provocazione. Il problema della Padania... Mai? È che ci sono troppi padani. E i gol chi li segna più? Pirlo, ormai è invecchiato, Pirlo. Ho capito, ma è pieno di delinquenti che arrivano, 3.000, 5.000, 10.000. Ma che delinquenti? Ma noi non siamo delinquenti, abbiamo insegnato al mondo a essere delinquenti. Siamo Parenzo, il popolo più mafioso del mondo. Tu sei d'accordo con Toscani? Ma ha ragione Toscani, perché tu non sei un delinquente. Voi due siete due delinquenti. Ma appunto, ma non vi hanno ancora messo dentro. Dalla Siria, dal Libano, vengano qua. Siete due ma state scherzando, ragazzi, non dite cazzate. Olivia, ma stai dicendo delle cazzate. Siete. Ma stai dicendo delle cazzate pazzesche, dai. Vedrai quando saremo tutti più abbronzati, ti sistemeranno, Cruciani. Cioè, andremo meglio, dici te? Molto meglio, pensa che belle ragazze. Ma e che c'entra, belle ragazze? Allungheranno le gambe. Ma scherzi. Ah, tu dici che il misto farà... Perché tu vai a cambiare il catetere agli anziani? Ci vai tu? No, tu stai lì alla radio col microfono a dire traffico. Ma io non ci vado a cambiare il catetere agli anziani, Massimo. E allora? Appunto, ma ci sono già quelli che lo fanno. Ho capito, ragazzi, bisogna regolarla. Oliviero, bisogna regolarla questa immigrazione. Non puoi i paesi... No, ma ascolta, i paesi forti sono quelli che hanno accettato l'immigrazione. Prova a analizzare. Ho capito, Germania, ma non possiamo. Inghilterra. È chiaro, ma non che è vero, poi non è vero. Come non è vero? Gran ma Bretagna, non è vero. Inghilterra. Sì. No, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, i paesi ricchi hanno accettato l'immigrazione. Ho capito, ragazzi, Olivero, ma se fai una cazzata là dentro, questi qua li cacciano a calci nel sedere, No. Vabbè, questo è un altro problema. Ma io questo è che dico, noi siamo incapaci di affrontare i grandi problemi. Tutto dunque viene rimandato in questo paese di seghe. Tutto rimandato. Rimandiamo. Ma cosa abbiamo? Il governo del rimando qui. Ma scusami, questa hai ragione. Il ministro Chiang ti piace? Beh, è molto meglio di Bossi. In che senso? No, ma dico, ma ti rendi conto la legge Bossi-Fini? Ma che vergogna! Cioè tu dici la Chiang è meglio di qualsiasi leghista. Ma molto meglio! Almeno pone dei problemi che dovremmo risolvere comunque. È inutile far finta che non dovremmo risolvere questi problemi. Dovremmo risolverli. Abbiamo fatto noi i migranti all'inizio del secolo scorso in modo drammatico. Ma io non sono d'accordo quando tu dici dovremmo fare l'invasione, perché diventiamo addirittura più belli. Ma è logico, apriamo. Ma sai chi mi ha dato? L'UNESCO ha dato i primi passaporti di cittadino universale. Io non ho ricevuto un numero. Ma che vuol dire cittadino universale? Che chiunque può andare... Ma puoi girare il mondo come vuoi. Ma perché? Vabbè, ma sarebbe, ma sarebbe l'anarchia più totale, Oliviero, su, ma chi dai. L'ha detto? Ma poi voglio vedere se vengono a casa tua, là dove paghi un IMU pazzesca, lì in campagna, no, invece a casa mia, vengono le guardie comunali, vengono quelli delle tasse a rompermi i coglioni, vengono tutti a rompere i coglioni e non serve a niente. Quanto paghi di IMU? Tutto pago, è una vita che lavoro e devo pagare le tasse e ho 400 euro al mese di pensione. Quanto siamo adesso? Ho pagato i miliardi in tasse. IMU, quanto paghi di IMU? Ma non lo so neanche, guarda, non voglio neanche sapere, non sono mai entrato in banca, li odio. Odio i soldi. E chi fa tutto per te? 400 euro di pensione. C'ho mia moglie che cura tutto, non domandarla a lei che si mette a ridere. Dice, ma che paese vivi, Oliviero? Lei è norvegese, figurati. Prova a spiegare a mia moglie. Vabbè, intanto Berlusconi... Mia moglie è norvegese, vive qui da 35 anni. Sì. Io quando voglio ridere un po' dico, scisti... Cos'è il condono fiscale? E lei comincia a dire, se la mette voi potete inventare una cazzata simile. Intanto Berlusconi è ancora là, oggi è andato al ritiro del Milan, è ancora lì, Highlander. Tipo... E allora teniamoci Berlusconi, pieni di Berlusconi, Berluscoidi, ma è meglio che arrivino quelli dell'Africa. Almeno scusa un attimo, non hanno il parrucchino. Ma come non hanno il parrucchino? Non hanno il parrucchino, dai! Ma anche loro se lo faranno quando sono più grandi. Mamma mia, magari, non hanno il parrucchino! Scusa un attimo, voglio chiederti una cosa. L'altro giorno la Cassazione ha detto che dire paese di merda è un'offesa che può essere punita. Non puoi fare i complimenti a questo paese. Ah, sarebbe un complimento, dici tu, un paese di merda. Sì, complimento ti danno 1000 euro. Allora, dillo a voce alta, questo è un paese di merda, così... Più. Dillo esplicito, sii sincero. Ma l'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Oh, ma non è il paese di merda. No, soprattutto allora paese... il tuo amico Moratti, perché non vende agli indonesiani subito l'Inter? Il tuo amico Moratti. Continua a dirlo io che venda loro, finalmente la faranno vincere sta Inter. Oh, deve vendere agli indonesiani. Ma gli italiani non vincerà più. Oh, così, dillo. No, aspetta, voglio finire col paese di merda, non solamente di merda, ma anche un paese puttana. Però una puttana, perché c'è dei clienti che la pagano... per essere puttana, senza clienti uno non può essere puttana, quindi questo paese è una puttana perché ci sono gli italiani. Vabbè, sono ma sei fissato, cioè tu dici che ci salviamo solo con l'invasione di stranieri che sono più buoni e più degni di noi. Ma Forse sì. Vabbè. La teoria di Oliviero Toscani. Altro che Papa, peggio del Papa. Ma accogliamo molto tutti. Peggio. Accogliamo molto tutti la grande invasione. Ma è logico, ma pensa che bella festa, che belle musiche. Ma è logico, nuovo sangue. Ma come belle musiche? Nuove, ma che belle. Ma che bei delinquenti, che ma che... no, vabbè, ci sono anche quelli, ma perché non li abbiamo noi in Parlamento? Non li abbiamo noi in giro i delinquenti? Vabbè, ho capito, ma voglio vedere se vengono a casa tua a tagliarti la gola, uno di questi abbiamo giorni. Io ho visto degli italiani tagliare la gola, Te le ricordi? Beh, ma ho capito, sì, ma non si può accettare l'invasione e dire che in Padania è meglio che ci sia... Ma non ho detto che voglio accettare l'invasione, va regolata. No, tu dici che la Padania è una provocazione, però la accetto, è una bella provocazione, la Padania è meglio che sia in maggioranza straniera. Ma è sicuro, con gente scelta come ha fatto nei paesi... Ma perché i padani che hanno in testa? I padani in testa che hanno? Senti, hanno rimpicciolito, per esempio, Milano, per una grande città, sì, perché ha capito che gli stranieri, il diverso, che a loro erano meridionali. Vabbè, t'abbraccio, devo chiudere il giornale radio, ci hanno messo troppo. Milano c'è messo... grande, capito? La Zanzara. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Oh, c'è un nuovo candidato alla segreteria del Partito Democratico, Si chiama Pippo Civatti, quella faccia molto carina, gentile, da bambino, rappresenta un po' la sinistra del Partito Democratico. Per chi fosse interessato, chi è all'ascolto e chi sta guidando in questo momento, chi è in macchina, i tassisti, gli autisti, eccetera, eccetera, lo stesso Parenzo che è in taxi. Sono Parenzo, Pippo, mi fa un pass per cortesia. Ma come Parenzo? Chi? Ma perché? Ma chi è che dice Parenzo? Chi è quel pazzo furioso? Ma sono qui alla sede del Sole 24 Ore, non mi e dicono entrare. Parenzo chi? Ma passami questo ma tizio, dicono, passami il tizio. La zanzara di quel coglione del Cruciani, grazie. Adesso non ho capito, ho detto... Hai detto quel coglione di Cruciani, subito hanno capito. L'ho detto, hanno capito. Vabbè, Civatti nel segno di vendicheremo. Le vendette di Civatti, vendicheremo Rodotà e Prodi. Ma che devi vendicare? Civatti, su, dai. Noi la faremo vendetta, ci vendicheremo di alcune cose nei prossimi mesi. Lo faremo ovviamente in modo democratico. Noi ci vendicheremo e vendicheremo la credibilità, l'autorevolezza, le figure di Stefano Rodotà e di Romano Prodi, tutte e due, perché non l'hanno capita. Ciao, io esco, dove vai? Ma perché bisogna vendicare Prodi e Rodotà? Ormai è finita, è tutto finito, quella cosa lì è finita, è morta, quelle candidature, quelle persone dal punto di vista politico non esistono più, sono lì ormai. Prodi ha detto che ormai non fa più nulla, Rodotà ha 80 anni, basta, finito. Civatti che dice la Santanchè è fascista, però l'altra sera non è che ha avuto il coraggio di dirglielo De Visu quando era là in onda, non mi ricordo dove, credo, se non ricordo male. Mi chiedo se possiamo ridurre la Santanchè a pitonessa e nessuno ricorda che la Santanchè è fascista. Guardate che non l'ha detto nessuno! Ma vi giuro, se la Santanchè è fascista, io sono, non so, sono un prete francescano. Se la Santanchè è fascista, io sono un prete francescano. Beh, è un'ipotesi da valutare. È un'ipotesi da valutare quella molto che lontano. Lei sia un prete francescano. No, è molto lontano dalla realtà. È da valutare, un po' un'antichia fascista la signora è. Buonasera, abbiamo preso i microfoni in possesso della radio. Compagni e compagni che siete a Piazza Indipendenza, amici operai di Pomigliano, vi stanno per chiudere la fabbrica, venite qui alla sede del Sole 24 Ore, dimostriamo il nostro disappunto verso le politiche industriali fatte dai fascisti in tutti questi anni. Compagni e compagni, la trasmissione della Zanzara è con voi, riaprite Pomigliano. Marchionne nulla. Trasmissione autogestita ora, finalmente, nella radio di Confindustria, sotto con le bandiere della FIOM. Compagni, abbiamo la radio. Cruciani lo mandiamo via, pedate del sedere, tutti sotto Radio 24, Piazza Indipendenza. Avanti tutta, via Marchionne, fiat è nostra. titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il Papa tra i migranti di Lampedusa. Nessuno piange questi morti, siamo travolti dall'indifferenza. Poco prima del suo arrivo, un nuovo sbarco di disperati. Tra i 10.000 fedeli, le voci dei lampedusani, una piccola comunità che, dice Papa Francesco, offre un grande esempio. E al TG3 il commento in studio di Massimo Cacciari. 51 morti, il bilancio ufficiale sulla strage di stamattina. Accuse reciproche tra esercito e fratelli musulmani. Lo spettro della guerra civile. Palazzo Chigi difende Saccomanni dagli attacchi del PDL, ma il nodo resta l'IMU. Il PD punta a rimodulare l'imposta, Berlusconi vuole cancellarla. Epifani, faremo il congresso entro l'anno con regole condivise, sono favorevole a primarie aperte. I renziani, passi avanti positivi. La recessione non dà respiro, fallimenti a livelli record e Squinzi invita a cena i presidenti di Camera e Senato e delle commissioni parlamentari. E l'Iran non riconosce il record natatorio della sua campionessa Ilham Ashghari perché, nonostante un camicione nero, giudica il suo costume inaccettabile. Vorrei leggervi, cari ascoltatori della Zanzara. Buonasera. Cari adepti della Zanzara. Vorrei leggervi quello che il quotidiano La Nazione di Firenze, quotidiano una volta prestigioso, oggi letto ancora, comunque un ottimo giornale, no? Beh, La Nazione di Firenze scrive in prima pagina l'altro giorno con la firma di Stefano Cecchi. Sì. Stefano Cecchi. Beh. Prima pagina. Se qualcuno vuol misurare il grottesco del paese, nel paese, basta sintonizzarsi su Radio 24 e ascoltare La Zanzara, il programma che per alzare l'ascolto ha scelto la strada della parolaccia con la quale infarcisce le conversazioni. Beh. Ma fino adesso in tre quarti d'ora non abbiamo detto una, comunque qualche cazzo, due, ma insomma cose normali. Beh, ragione. La radio di Confindustria, ma stai zitto, la radio di Confindustria che sdogana il turpiloquio sarebbe già notizia, ma non è questo il punto. La Zanzara infatti è condotta da Giuseppe Cruciani, showman che arriva dalla grande tradizione del turpiloquio romano che fu di Cencio e Bombolo. Beh, questa è meravigliosa, però, ragione, eh. Ragione. La grande tradizione del turpiloquio romano che fu di Cencio e Bombolo. Costui, avendo capito come il trash garantisca audience, ha avuto alcune intuizioni degne di un Lino Banfi del giornalismo. Bene, senti, non è sbagliato. No, ma Lino Banfi è un grandissimo. No, ma io però condivido ogni riga di questo articolo. Come quella di usare per opinionista politico un trans che batte sulla 14. Ma non parla di me, però. Beh, no, però, tu no. Ah, ecco, no, vabbè, no, non conti un cazzo. Ah, ecco, non conti un cazzo. Ma il clou Cruciani lo mostra nel modo di trattare gli ascoltatori che chiamano. Qualunque cosa dicano, infatti, lui li offende, dando loro o del mentecatto o del demente e chiamando l'ambulanza con tanto di sirena a portarli via. Qual è la cosa meravigliosa? Che la gente fa la fila per chiamare e essere insultata, regalando al programma ascolti record e dando ragione a chi sosteneva che governare l'Italia non è difficile, è inutile. Beh, ha ragione, non è un brutto articolo. Ma non è assolutamente un brutto articolo. Ha ragione, anche è un po' è mezzo fascistoide. No, uno ma dice, ha ragione. Governare tutto. L'Italia non è difficile, è inutile. Chi è che lo dice? Beh, lo diceva la Buonanima. Beh, però non è un pezzo sbagliato, è giusto, è vero. Sì. Condivisibile, insomma. Giuseppe dalla provincia di Pavia, buonasera. Giuseppe, dica. Giuseppe, vada. Sì, eccomi. No, volevo intervenire relativamente all'intervento di Scamarcio di venerdì. No, e no, no, no, no, non voglio sentire questa cosa qua. Non voglio sentire. Ma scusa, dottor Cruciani. Ma non mi interessa, non mi interessa quello che è successo venerdì. Non mi interessa che acqua passata, sono passati tre giorni. Vabbè, comunque, mi attacco al discorso di oggi per dire che probabilmente la sinistra non va in giro, perché io vado in giro tutti i giorni e vedo donne praticamente nude in perizoma a cui piace probabilmente vestirsi in questo modo e gode nel vedere gli uomini con la bava alla bocca. Non ho capito niente. Sì, ho capito solo la bava alla bocca. Dicendo... Ritenti un attimo, Giuseppe, scusi. Allora, no, volevo dire che la sinistra, queste donne di sinistra, probabilmente sì. non escono, non vanno nei giardini, non vanno nelle strade, perché vediamo ragazze di 18, 19, 20 anni, anche 60, praticamente nude, col perizoma in vista, e non mi sembra che... Guardi, che sia... questi disegni di legge, queste persone che vogliono proporre limiti alla pubblicità, che peraltro già esistono nelle leggi, perché tu non è che puoi fare una pubblicità con una con le cosce aperte, no? Certo. E nemmeno le mutande, non lo puoi fare, esistono già dei limiti, non ci possono rompere le scatole su altri limiti assurdi, perché... in questo modo verrebbero danneggiate le donne, addirittura queste pubblicità con le donne con i seni di fuori danneggiano le donne stesse, oppure portano alla violenza, stronzate pazzesche. Cazzate. Siccome non hanno nulla da fare dalla mattina alla sera queste persone qua, niente, presentano disegni di legge. Grazie. Fabio dalla provincia di Bari. Sì, buonasera. Niente, io volevo collegarmi al discorso che facevate prima, quello su Ponte Vecchio venduto, affittato a 100.000 euro. Prima no, lo facciamo una settimana fa, comunque va bene. Sì, noi volevo dire, noi per esempio Polignano a Mare organizzano il libro possibile, una piazza, è stato tolto il nome che era San Benedetto, è stato messo il nome di un negozio che ha dato un contributo in moneta. Io vorrei chiedere, siccome qui si è alzato un polverone, sembra sia stata fatta una cosa aberrante, voglio dire, sostituire quel nome per i soli 4 giorni della fiera del libro. Ma scusa, ma perché adesso non dobbiamo parlare della fiera di Polignano, Fabio? Ci pongo un problema più interessante. Ma viene anche il tuo amico Sgarbi alla fiera di Polignano. Vabbè, allora, ma che vuoi? Una... Che vuoi, Fabio? Io che vuoi? Dimmi. Volevo chiedere a voi, che siete così cinici e lontani da, voglio dire, un'analisi, come dire, clericale, no, se è giusto o meno vendere o affittare. Ma perché lei si prenota al centralino dicendo una cosa e poi parla di altro? Non lo spiega? Sì, perché nel divenire della prenotazione adesso questa mi è sembrata... Vabbè, Francesco dalla provincia di Padova, io sono contrario ad affittare le piazze se non a prezzi altissimi. Ponte Vecchio per 100.000 euro alla Ferrari... Non è molto. È nulla, doveva affittarlo Renzi a 500.000 euro e allora si poteva ragionare. 1 milione di euro. Francesco dalla provincia di Padova. Pronto? Mi sente? Dica, sì. Allora, guardi, signor Cruciani, io la chiamavo per il discorso di tutto questo buonismo che c'è per questi extracomunitari. Ma... gli extracomunitari. Beh, qua. Oggi è il giorno della melassa, perché c'è il Papa a Lampedusa, è il giorno della grande melassa. Grande melassa, bravissimo. Allora, della grande melassa, dai. Ma dove la vede la melassa? Poi, a parte che io non vorrei criticare il Papa, per carità, però dice che dobbiamo piangere di più, ha detto che si piange poco. A me non mi pare, ogni volta che arrivano gli immigrati in Italia c'è un piagnisteo continuo. Ma ti credo. Ma appunto, ma non è che non si piange, in Italia è pieno di gente che piange. Ha ricordato una cosa che dovrebbe essere, secondo me, propria a tutti gli uomini, cioè l'umanità. Ma è normale, la banalità, il Papa che fa il suo mestiere. Il Papa è una forza simbolica. Facciamo parlare Francesco. Posso parlare? Ecco, no, io volevo dire anche al suo ospite, ormai ospite è lì di casa, al dottor Parenzo, quando lui che è di nazionalità ebraica, per arrivare nazionalità italiana, somaro, che non sei altro. Cosa vuol dire nazionalità ebraica? L'ebraismo non è una nazione, ma andiamo avanti, dai, perché poverino. Certo, ma lei, però, ma quando certo. Vai in Israele, lei è più. Ma io vado dappertutto! Vado anche in Egitto, vado ovunque, non vado solo in Israele. Avere dei permessi particolari, non puoi andare là come vuoi. Ma vabbè, Francesco, lei. Comunitari che arrivano, se no gli sparano a vista. Cosa stai dicendo? Ma quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Comunque. Se lei non sa la differenza tra nazionalità ebraica e ebraismo, ripassi un'altra volta. Milena dalla provincia di Biella. Stia zitto, Milena, provincia di Biella. Buonasera. Dica. Pronto, buonasera. Sono Milena. E innanzitutto i miei complimenti a Parenzo. Mi dispiace che non ci sia mio figlio, che ha 13 anni e che lo adora. Ma come fai a essere adorato da un figlio da uno di 13 anni? Guarda che... Ma che gente che di cuore, gente che ragiona. Vabbè, allora Milena... E gente dalla passione civile ancora. L'affetto porta solo bene. Volevo dire che ho veramente voluto bene a Toscani. Toscani non è un fotografo che apprezzo. Io ho fatto tanti anni la fotografa e le sue foto non le ho quasi mai capito. Allora? È riuscito a dire quello che io non riesco mai a dire. Cioè? Ha ragione lui. Cioè che ci vuole la grande invasione degli extracomunitari perché noi italiani facciamo schifo. Questo. No. Ma questo ha detto Toscani. No. Come no? Toscani ha detto sì, ci migliorerebbe solo. Io ma che migliorerebbe, ragazzi? In Spagna c'hanno le torrette coi mitra e con il filo spinato lì al confine non con la voce, col Marocco. Dai, su. Prego, non alzi la voce perché io mi intimidisco. Ho capito, si intimidisce. Allora, pazienza. Laura. Guardi la Svizzera, la zona lungo il lago Le Mans. Milena, un attimo solo che ho la borsa, torno subito, resti lì. La zanzara. Beh, danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Ecco. Adesso, cari ascoltatori della Zanzara, voglio parlarvi di un personaggio che è considerato un grande giurista e probabilmente è un grande giurista. Tu lo conosci, Parenzo, anzi probabilmente un tuo amico, un tuo affine, un tuo accolito, si chiama Franco Cordero. Beh, Franco Cordero è un giurista. Professor Franco Cordero. Di chiara fama. Sicuramente un giurista di chiara fama. Un editorialista del quotidiano La Repubblica. Ogni tanto viene intervistato sempre dalla stessa persona sul Fatto. La persona si chiama Silvia Truzzi, sì, che intervista Franco Cordero, il quale però francamente stavolta ne ha dette di cotte e di crude, le ha sparate proprio. Non è che ci vuole, non è che bisogna essere giuristi per sparare queste stronzate, quelle che io chiamo stronzate. Senti, si gonfiano i piccioni. La convulsione nasce da un caso psichiatrico. Costui, Berlusconi, pretende d'essere diverso e lo è clinicamente parlando. Cioè Berlusconi sarebbe diverso clinicamente parlando. Nella sua testa gli altri esistono come possibili prede, non vigono norme. Sulla scena agonistica appare monco dell'organo morale, con uno stomaco senza fondo e riflessi da ligatore o squalo, struttura ad alto rendimento nella catena alimentare in società moralmente deboli, qual era l'Italia divisa tra la balena democristiana, eccetera, eccetera, eccetera. Monco dell'organo morale, come se ti mancasse qualcosa che è la moralità. Beh, monco dell'organo morale. Beh, vabbè, insomma, no? Mi sembra che alcune cose lo abbiano anche, no, stai zitto, va, anche è abbastanza dimostrato, 800 no? 24 è il principe dei virtuosi. Ma vuoi che sostenere? C'entra, monco, ha dello... altre qualità, ma sicuramente non è il principe dei virtuosi, non è sicuramente, no, il principe della morale, Milena, dell'etica. Milena, buonasera, eccoci qua. Dica, allora, dica, Milena, chi, Gabanelli? No, ma no, stavo Milena semplicemente dicendo che, guardi, io ascolto Radio Patania, noi siamo Patania, perché noi la chiamiamo così, da Patacca, noi siamo una famiglia abbastanza felice, quindi possiamo permetterci di ascoltare Radio Patania. Perché beh, pazienza, qual è il problema? Le minchiate che sparano lì non si sentono. Ah, lei dice, la sente quasi per divertirsi. No, no, la sento proprio per divertirci, perché sentiamo Figel che non sa mai un cazzo, non capisce un cazzo, non sa mai niente. E poi c'è invece uno che ci va allo stomaco duro, perché Sammy Varin è veramente... Lei non ci va leggera però, si chiama Milena, Sammy Varin è veramente... Guardi, il mio figlio maggiore si chiama Samuel, mi sono pentita estremamente di avergli dato quel nome da Sammy Varin, che presumo sia Samuel, comunque Samuel. Vabbè, ma adesso non esageri, cioè, ci sono tanti Samuel... Ma lei li ha ascoltati la mattina? Vuole incazzarsi, vuole già alzarsi incazzato? Perché vabbè, io non ho la televisione. Però io non ho francamente adesso non è che bisogna contestare tutto quello che dicono là, cioè... No, allora ascolti, io il 90.9% però io non ho la televisione, quindi vabbè, allora radio, Milena, dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare? Niente, volevo veramente abbracciare Toscani, perché forse noi non ci ricordiamo una cosa: la mia nonna è nata in Argentina perché i suoi genitori erano emigrati. Poi? Mio nonno ha un'unica foto nella sua vita, l'ha fatta in Brasile, i miei erano di Verona. Vabbè, siamo Milena, però non possiamo fare adesso tutta la sua storia, ripercorrere tutta la sua genealogia. Dovrebbe essere il territorio padano, sì? E ne ho vergogna. Infatti ne dico vergogna. Che territorio pedemontano. Vabbè, Milena, grazie. Aldo da Pordenone, buonasera. Buonasera. Aldo. Una che si sente Radio Padania per divertirsi, beh, forse qualche problema ce l'ha pure lei, oltre a quelli che però abbiamo ascoltato prima. Può combattere la depressione. Aldo da Pordenone, Aldo Pordenone. Aldo? Si è addormentato. Aldo? Massimo da Pistoia, su, dai. Massimo? Massimo. Laura da Roma. Laura da Roma, ragazzi, forza con queste linee. Laura da Roma, Massimo da Pistoia, Aldo da Pordenone. La zanza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. La zanzara danza. Arriviamo, mica siamo morti, siamo qui. Io sono. Oh, Giannino, è rispuntato Giannino che dice di pagare 118.000 euro di tasse a rate. Sì, l'ha detto in onda sulla 7. Senti Giannino. E sogna i fatti suoi. Quanto ti hanno chiesto? Quest'anno, quindi, il totale di quello che io pago sui redditi molto più elevati dell'anno precedente, infatti sono anch'io in difficoltà e ho fatto la rateazione, io quest'anno pago allo Stato sui miei redditi diretti 118.000 euro. Porca miseria, hai dovuto rateizzare? ho dovuto rateizzare perché in questi mesi. Quando arriva il mio abbandono. Beh, chiunque rateizzerebbe, non perché Giannino, 118.000 euro. È una cifra imponente. Beh, significa che ha guadagnato anche tanto, È una vergogna, lo Stato è uno Stato ladro, ti fotte con le tasse, c'è una tassazione vergognosa, però sempre 118.000 euro. Per chi paga come noi fino al millesimo è tantissimo. Se mi ridanno il microfono. Tu riesci a fare una di quelle belle invettive che facevi o ti sei rammollito? Ma no, non mi sono rammollito, io l'invettiva te la faccio. Non sei quello perché? Di una perché? Volta, non sei l'Oscar di una volta. Temo. Beh, se mi ridanno un microfono radiofonico vedrai tutti i giorni. Come dicevi Tassa, ti si arroventavano le sibilanti. Riccardo da Ferrara, eccoci qui, Riccardo. Sì, buonasera. No, volevo dire sulla regolamentazione dell'immigrazione, io ero d'accordo con questo fatto qua perché diciamo non si può paragonare l'Italia agli Stati Uniti, diciamo, dell'immigrazione italiana degli anni scorsi, cioè gli Stati Uniti erano un paese che può ricevere perché è spopolato praticamente, l'Italia, cioè, quanti siamo? 56 milioni, 60 milioni? Sì, ma certo Riccardo, ma sono follie di toscani, dai su, follie di toscani e di Parenzo che lì d'accordo ovviamente, no? Questa immigrazione che ci serve, immigrazione sconsiderata che ci serve, sconsiderata, l'invasione. Non c'è nessuna invasione, tra l'altro. Con toscani che diceva addirittura dovrebbero diventare maggioranza, dai, ma di che parliamo? Mario da Firenze. Gli Stati Uniti sono un paese Buongiorno. Nato sull'immigrazione. Buongiorno. Un'altra cosa, dai. È sempre pronto? Dica Mario, dica. Senta, nulla, volevo solo fare un intervento su Civati, no? Perché dopo 70 anni si sentono fare gli stessi discorsi che mi raccontava mio nonno quando nel dopoguerra, alle elezioni che poi i comunisti persero, minacciavano vendette e minacciavano la gente che ora vi mettiamo nei campi di lavoro. Cioè c'è questa retorica comunista che quando arrivano quasi al traguardo, sul filo della vittoria, dicono sempre delle cazzate di questo genere che permettono alla gente di turarsi il naso. Ma lei di cosa sta parlando? Di cosa sta parlando? Civati che ha detto che bisogna vendicare vendetta di Prodi e di Rodotà. Vabbè, ma sono cose che si dicono così perché lui vuole andare alla pancia dell'elettorato di sinistra, di una parte dell'elettorato di sinistra che ha vissuto la vicenda di Prodi e la vicenda di Rodotà, sì, come una come un'offesa. Mi scusi. Io discuto solo del linguaggio, no? Si meraviglia che anche un giovane come Civati, che all'apparenza è intelligente, usi questi tipi di linguaggio che sono tipici delle grandi sconfitte comuniste delle sinistre. Io avrei voglia ogni tanto di votare a sinistra, no? Poi mi trovo davanti gente come D'Alema che con i sei politici e l'esproprio proletario non è riuscito neanche a prendere uno straccio di laurea e che sa solo muovere baffetti e alla fine mi trappo il naso e voto Berlusconi o Grillo e credo continuerò a farlo perché la gente è questa, insomma. Poi sulla grande trombata di Prodi, insomma, parliamoci chiaro, sto gran personaggio era Prodi, chi era? È uno che ha ridotto l'IRI in un cimitero, ha venduto l'Occidente col WTO, tutta l'industria dell'Occidente ai cinesi e poi ci ha infilato in questo grande merdaio che è l'euro, dove abbiamo cambiato i nostri soldi a 2.000 lire, dove nel pacchetto delle monete europee non ce n'era una che costava 2.000 lire. Va bene Mario, grazie. Bruno d'Arezzo, buonasera, rimaniamo in Toscana. Bruno. Buonasera, io sono la pancia. Cioè? Sono la pancia a cui sta parlando Scati. Dunque? Faccio parte di quella pancia. Ma non c'è niente di male, secondo me non prende un voto in più di quello di quelli che benissimo, prende benissimo, però vedi, il problema benissimo. È questo qui, che il l'ascoltatore che mi ha preceduto, al di là del fatto che appunto sia pure della parte politica dove sta, cioè questa è la dimostrazione di come si viaggia per luoghi comuni senza avere probabilmente un benché minimo straccio di competenze tecniche. Cioè? Di natura economico-finanziaria. E chi le avrebbe le competenze tecniche? Scusi, chi le avrebbe le competenze tecniche? In questo caso, chi le avrebbe? Ma mi illudio di averne per motivi, per studi universitari e per professione. E ma quindi chi? Di avere chi? forse quando siamo tutti al bar, alle chiacchiere dal bar, siamo tutti commissaria nazionale, quando c'era il Moro di Venezia eravamo tutti esperti velisti e gente che non sapeva neanche come era Barcavele, che parlava di cazzate, strambate e roba di questo genere. Io lo sa che non ho capito quello che vuole dire, chi sarebbe in questo caso l'esperto? Civati? No, sarebbe, ripeto, io siccome mi piace Civati, mi piace quello che le dice, piace Civati, la realtà è che le piace Civati, va benissimo, è legittimo, per carità. E sono, mi cambia quando l'ascoltatore che mi ha preceduto parla per luoghi comuni, vabbè, definisce l'euro una grande stronzata. Vabbè, ma lasci perdere adesso, dica quello che pensa lei, non si attacchi a quello che ha detto. E allora volevo dire, a lei piace Civati, benissimo. Mi piace perché io. Dunque, anche lei vuole vendicare Rodotà no, e Prodi. Ma che vendicare? Ma quello che lui vendicare? Ha detto: voglio vendicare Rodotà e Prodi perché sono stati traditi dalla sinistra e adesso c'è Berlusconi. Questo ha detto. Cioè, in un certo senso, forse ha adoperato un linguaggio che forse poteva risparmiarci, ma dal punto di vista del principio. Sì. Dal punto di vista del principio sono d'accordo con lui, perché io quando la direzione nazionale. Bene, lei avrà qualcuno da votare al congresso quando ci sarà del Partito Democratico, alle primarie del Partito Democratico. Oh, è con noi l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Buonasera. Buonasera, buonasera a come tutti. Sta? Ben che ritrovato. Fa? Che fa Alemanno adesso? Bene, cosa fa? Bene, sto lei bene. Non è venuto qui durante le elezioni perché era troppo indaffarato. E giustamente è arrivata la punizione di Tutankhamon che esatto. Colpisce chiunque non sia passato da qui. Ecco. Non me lo volevate dire prima, però non lo sapevo. Ha ragione. Ecco. Ma che fa adesso, signor Alemanno, lei? Allora, adesso faccio l'opposizione in Campidoglio. E perché il capogruppo? Sono il capogruppo della lista civica. Che beh, che effetto fatto. Le fa però entrare ogni giorno no, ma è un in caso quel consiglio comunale cosa, no, da, op- da leader dire, dell'opposizione? Fammi dire una cosa, un caso strano, perché di solito sì, adesso, no, non vanno mai, è vero. Non è deputato e ovviamente uno può dire gli è rimasto solo questo. Questo no? È vero, però di atto. Solito alcuni personaggi, soprattutto importanti, se ne fottono. Se ne fottono. È vero, io è vero. Spero che Alemanno lei in questi anni... Bisogna dare atto a Lupo Manno, come veniva chiamato. No. Di essere spero uno che lì stia che lì a rompere le scatole al signor Marino, no? Beh, non, guarda, non è la prima volta, perché già dal 2006 al 2008, dopo che ero stato battuto da Veltroni, avevo fatto la stessa cosa, quindi non è una grandissima novità. Però lei era in Parlamento all'epoca, anche. All'epoca era nel Parlamento. Si divideva un po', si divideva esatto, un po'. Esatto. Senta, ma è una, mi dica la verità, però qui siamo abituati a parlare in maniera abbastanza chiara. Questa roba della bici, questa roba della bicicletta, poi c'è anche la questione dei vigili urbani, però quella è una cosa molto sì. Romana. Insomma, noi ci ascoltano anche Val Brembana. Non è questa cosa così. Della bicicletta è una cosa, una stronzata. Si può dire che il sindaco in bicicletta seguito dai vigili urbani è una roba che o è importante o è un segnale importante. Io non mi permetterei mai di usare questo termine a giudicare la via del sindaco. Io so una cosa, che quando mi spostavo da sindaco era talmente preso da situazione, no, la moto qualche volta, però ero talmente preso dalla situazione, io mentre mi spostavo dovevo telefonare, parlare, continuare a lavorare e quindi ero costretto a farlo in macchina. Farlo in bici, io non so quando i ritmi diventeranno i ritmi pieni da sindaco in cui bisogna correre da una parte all'altra e continuamente fare 50.000 cose, come faccio a farlo in bicicletta? Cioè, come fai a lavorare? Dice, come esatto, fai a lavorare quindi, in bicicletta? Quindi mi sembra insomma privilegiare in maniera eccessiva un fatto d'immagine, sicuramente incopiabile perché comunque la bicicletta l'ha promossa, però mi sembra privilegiare troppo l'immagine rispetto alla vera operatività. Ma poi i vigili ce la fanno a stare là oppure anche si costringe i vigili a fare delle cose un po' così, cioè un po'... Allora, io ho istituito qualche tempo fa appunto questo gruppo di vigili in bicicletta. Bicicletta, vabbè. E parliamo sempre che sono, attenzione, pedalata assistita sia per il sindaco che per i vigili. Poi Mario se li ha trovati e quindi l'ha trasformato un po' nella sua scorta. Effettivamente fa una certa impressione vedere appunto il sindaco con i vigili appeso. Una impressione non male all'inizio, però poi alla fine questo fatto ripetitivo altre cose sembra un po' una cosa lenta, un po' da paesino svizzero più che da Roma, insomma. Comunque, Alemanno, guardi, dico la verità. Uno quando prende una scoppola così, cioè da uno che non è radicato a Roma, è vero che le cose, per carità, la politica dopo 5 anni cambia radicalmente, l'avrei commesso pure degli errori, quando prende la scoppola da uno che non è radicato a Roma, proprio a Roma non ci pensava fino a qualche mese prima, è stata questa operazione incredibile da parte del signor Bettini che ha scovato sto candidato, tutti si sono riuniti, i grillini sono andati male, eccetera eccetera, quando lo prende la scoppola così, ma che vogliate tornare a fare politica? Lei fa politica da tanti anni, è entrato in Parlamento nel 94, ha fatto il sindaco, ha fatto il ministro, cioè perché non si ritira dalla politica? Dunque, innanzitutto ho fatto politica negli anni 70, non anche 94. Negli anni 70, sto dicendo, vabbè, allora, è chiaro. Per me la politica non è un fatto di poltrona o di quello che uno dove sta, è una scelta. Ma l'è passato di vita, per la mente? L'è passato per la mente di non fare più politica? No, non mi è passato, questo non mi passa, però posso farlo anche a costo zero, cioè nel senso posso anche farlo, io adesso proprio oggi ho firmato la pratica per la partita IVA, quindi lavoro pure per fare altre cose. Ah, questo è interessante, lei ha aperto la partita IVA. Sono entrato nel proprio della partita IVA, è una giornata. Oh, benvenuto! Eccolo, benvenuto! Beh, lei no, sono Cruciani, io sono partita IVA storica, ma lei è dipendente, quale partita però, IVA? Lei? Però fare politica legato alla poltrona, cioè se c'è la poltrona fai politica, la perdi, e smetti, mi sembra, ti dico, cioè se io vincevo... Allora che continua a fare poi a perdo, smetto, cioè, ma che fa la partita IVA di Alemanno? Le mie idee, altre cose, farò quello che fanno le partite IVA, farò il consulente, sono ingegnere, quindi vabbè, però non fa l'ingegnere da un sacco di... Quando è che ha fatto l'ingegnere? Poca roba, non c'è dubbio, però insomma qualcosa farò. Cioè, però anche lei non si farebbe progettare la casa? Cioè, No. Poi oltretutto sono pure ingegnere ambientale, perché non posso progettare le case. Però a parte questo, voglio dire una cosa, no? Voi dite, mi sono preso sta scoppola da un esterno. Ricordo un fatto, hanno votato soltanto il 45% delle persone. Vabbè, quindi questo... il mio problema non è Marino, io non sono stato battuto da Marino, io sono stato battuto dall'astensionismo. Quindi vabbè, ho capito, il mio problema, quello che penso in questi giorni, non è che fa Marino, il problema è dove diavolo stanno questi 55% dei romani, che nonostante ci fossero 19 candidati, non solo io e Marino, ma c'era di tutto, certo. Estrema destra, estrema sinistra, non sono andati a votare. Quindi il mio problema è questo, non sono stato battuto da Marino, sono stato battuto da chi non è andato a votare. È stato bravo a farsi votare da questi qua. Ma c'è dubbio, la vita sta dicendo che è meglio. No. Però la notizia di oggi. Marino non era di Roma, e si è visto. Difatti, sono votato al 27%, io ho 20 diritto al voto. Io sono votato dal 18%, cioè su 10 ho 20 diritto al voto. 5 non hanno votato, 3 hanno votato per Marino e 2 hanno votato per Alemanno. Questa è la realtà. Come gli erode, però. No, però mi dice, non è stato radicato, ma come mai? Qua là che sei scemo. No, dico semplicemente c'è stata questa scoppola che purtroppo riguarda tutto il centrodestra. Dico anche un'altra cosa, così mi rodo ancora meglio. Nelle politiche di febbraio a Roma il centrodestra ha preso il 23%, con me ha preso il 31%. Consoliamoci con l'aglietto, come si dice a Roma. Ecco, però. Voglio dire, non la sento proprio una mia sconfitta solo personale. Allora, Alemanno, però mi dica anche qui la verità. Lei ci tiene a tornare in Parlamento, cioè voglio tornare in Parlamento. Questo dovrebbe essere sincero, perché nessuno lo dice, no? Invece lei dovrebbe dire, io ho ancora delle cose da fare. Io voglio avere un centrodestra in cui mi ci ritrovo bene. E adesso ne parliamo, però ecco, vuole tornare in Parlamento, sì o no? Se capita, ma non è il mio problema principale. Vabbè, d'accordo, però se uno fa politica poi vuole tornare in Parlamento. Cioè, quando ci saranno le prossime elezioni sicuramente... No, uno fa politica anche andando in giro per strada a parlare con la gente. Uno dice sempre così, poi alla fine la politica si fa anche per incidere, no? Non è uno resta fuori. Il beneficio del dubbio. No, ma io non lo dico in senso negativo, io sto dicendo semplicemente che se uno poi vuole incidere, come lei sa, deve avere in mano qualche leva, e non è che uno da fuori... Non è che può girare con la bicicletta così per la città, adesso senza nessun riferimento al sindaco, Però la vera notizia di oggi è che Alemanno ha aperto la partita IVA, guarda, questa qua è una notizia molto importante. E del bobolo delle partite IVA. E del popolo delle partite IVA. Il popolo delle partite IVA. Ma quindi si scriverà anche al sindacato? Quale sì, che c'entra del sindacato delle partite IVA? La CGIL? Non c'è, la CGIL... La CGIL ha una sezione. Ma la CGIL, che c'entra? Voglio sapere se Alemanno magari dice adesso tutto cambia, magari si iscrive al sindacato della CGIL. No, però voglio chiedere, davvero lei vuole fare il libero professionista? Io devo anche lavorare un po', perché non posso campare soltanto quello che può venire dal consiglio comunale o altre cose di questo genere. Da quanto è passato lei? Da che reddito è passato? Cioè, come sindaco prendeva circa? 5.300. 5.300 ed è passato a consigliere comunale, quanto prenderà? Oggi il consiglio comunale sta a 1.500, una cosa di questo genere. Compreso tutto, anche facendo il massimo delle presenze e tutto? Tutto. Ma è un disastro, come fa? Vabbè, ci avrà qualche soldo da fare. Vedremo, poi vedremo tante altre cose. Comunque adesso vediamo un attimo, insomma. Comunque voglio dire, il tema è che non credo che sia più tanto... Anche vediamo un attimo, ma questo è fondamentale. I soldi sono fondamentali nella trasparenza. Sì. Visto che il governo che sta facendo una cosa ottima, se riesce a farlo, perché qui c'è un casino, i redditi online, eccetera. Comunque la cosa interessante, sono passato da un reddito di 5.300 a un reddito di 1.700, non mi preoccupo, ho aperto la partita IVA. No, 1.700 magari, 1.700 ho detto, 1.500. Senta una cosa, Alemanno, ma allora lei proprio Forza Italia niente, zero, proprio non ci pensa nemmeno lontanamente? No, perché non... cioè, rispetto ovviamente il progetto, capisco tutto quello che sono i punti di riferimento, però io credo che il PDL aveva il valore del partito unico del centrodestra. Oggi questa scelta di Forza Italia mi sembra insomma in qualche modo esclude chi ha il mio percorso, quindi io immagino un centrodestra diverso, immagino sempre di avere il centrodestra, non penso di andarmi a chiudere a destra o altre cose, però penso che si possa fare una configurazione diversa, più partiti come era prima. Allora, torniamo subito per spiegare questa cosa, Forza Italia, Alemanno, la destra, il partito della destra, tutti di nuovo insieme, sai Parenzo, forse Storace, Alemanno, no Gasparri no. Volevo poi sapere la se ha notizie del signor Fini, signor Alemanno, però magari ce lo no, dice. No, non credo che entrerà, in giro, non credo che entrerà. No, ma se l'ha visto in giro da qualche parte. Va bene, intanto pubblicità, 800 24 00 24, però combatte, combatte come un leone, nonostante la sconfitta combatte. La Zanzara. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara di spugosa. Mezza gaffe del ministro De Girolamo, ministro dell'agricoltura, grande davanti alla platea della Coldiretti a prendere applausi come quella al solito, ma questo è i ministri. Seria, la Coldiretti, persone serie. Grande risultata, sentite. Perché in Europa noi abbiamo ottenuto una grande risultata, un grande risultato. I finanziamenti in Europa, però un lapsus. È un lapsus, però non è un problema di coordinazione. Forse è emozionato, cioè De Genova, perché non è abituato a parlare davanti alla. Ma perché uno deve dire ha commesso un piccolissimo errore, poi si è corretta, un grande risultato. Si capiva che era nel flusso del discorso. Comunque, senti, signora Alemanno. Senti Brunetta, aspetta, adesso torniamo sulle mani. No, perché Brunetta? Ti ha denunciato perché ti ha denunciato? Perché ti ha denunciato su Busi? Brunetta adesso ha fatto proprio un'interrogazione in commissione di vigilanza sulla vicenda Busi Ravetto. Sì. Sì. Denunziando cose improprie di cui tu sei protagonista, di cui io sarei protagonista, perché non avrei cacciato dallo studio il signor Busi. Ecco. Signor Busi. Con grande rispetto per il signor Brunetta, per l'onorevole professor, sì, però Brunetta, vai più veloce, sì. Sono pronto a rispondere in commissione di qualsiasi illecito che ho fatto. No, ma non hai fatto nessun illecito, ma non dovevi cacciare nessuno, ma sei pazzo. Risponderò nelle dovute sedi. Ma Brunetta, sei impazzito, ma Busi ha detto una cosa che era una battuta, tra l'altro, da Ravetto. No, il tema è che vogliono mettere le mutande ad Aldo Busi, perché il concetto è solo questo. Cioè, non si può criticare uno scrittore che della sua iperbole è stato sgradevole. Io ho chiesto scusa, ma non si può montare un casino Busi contro l'ottimo servizio pubblico italiano. Ma stai zitto, in due ore di trasmissione Busi non ha detto nemmeno una parolaccia, neanche una ha detto, appunto. Brunetta, bravo. Senti con questa giornalista, Brunetta con questa giornalista, perché voglio anche bene a Brunetta, senti, questo è il paradosso. Senti qualche problema però c'è all'interno del Popolo della Libertà. Cicchitto continua a dire questo passaggio a Forza Italia non può essere gestito solo da un gruppo ristretto di persone, ma pare che i problemi ce li abbia il Partito Democratico. Per esempio, qualcuno ce l'avete anche voi con gli F-35. Qualche problema ce l'avete anche voi. Lei mi ha fatto una domanda, la terza volta che mi fa questa domanda, io se posso dare la risposta. Il Partito Democratico ha un grandissimo problema perché è spaccato sugli F-35. Ma mi fa impazzire Brunetta, perché la giornalista gli chiede: ma avete problemi anche voi? Sì. No, il Partito Democratico. Il Partito Democratico. E anche cretino, va aggiunto, che sei un cretino. C'è con noi l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, no, che vuole ex? Fare. Perché devi ricordare? Vabbè, l'ex sindaco. Chiamalo Gianni Alemanno, mi sembra che è sempre così con questo. Ma no, ma l'ex. Sì, è con noi. Come se lei non lavorasse più alla Zanzara. È con noi l'ex giornalista della Zanzara, il signor Cruciani. Ma perché Cruciani? Siamo ancora nella. Ma perché glielo devi ricordare che è ex sindaco? Poverino, siamo ancora nell'imminenza del lutto. Che diamine. Volevo dire una cosa sulla Di Girolamo, il fatto di usare la A, cioè il femminile, è un'inflessione campana, non è una gamba. Ah, bravo, vede. Ecco. Ah, lei dice, grande risultata, sì. Beh, insomma, adesso, sì, gli è scappata. È un'inflessione campana. Gli è scappata, lei è scappata. Vabbè. Senta, Alemanno, ma come lo chiamerebbe lei questa specie di... Parenzo prima mi ha detto, come al solito, perché lui è antifascista militante, la cosa nera, cos'è? Cosa nera? Sì, la cosa nera, beh, la cosa nera l'hanno, questa entità. Cioè, tornate davvero tutti insieme, tranne Gasparri? No, non la chiamerei cosa nera, la chiamerei un nuovo centrodestra, un centrodestra organizzato su più partiti invece che con uno. Come no, la prima, il vostro è una idea di creare qualcosa che riprenda l'eredità di Alleanza Nazionale senza tornare Alleanza Nazionale, quindi che parta da Fiuggio e vada avanti, non che torni indietro. Ma come quindi lo chiamerebbe lei? Non la chiama una cosa nera. Ma la potete, se volete fare una cosa retorica, potete chiamarla la cosa tricolore, oppure semplicemente l'eredità di Alleanza Nazionale che appunto va verso il futuro. Ma magari potremmo chiamare l'Alleanza Popolare, qualcosa di questo genere. Alleanza Popolare porta una sfiga tremenda, quella che volevate fare l'altra volta prima delle elezioni. No, no, quella è Italia Popolare. Ah, Italia, ormai non si capisce più niente. Ricorda un po' l'elefantino quella roba lì, eh. No, rischio questo è vero. Veramente. Rischio elefantino. Ma Fini può avere spazio in questa cosa oppure ormai è completamente fuori? Fini si è chiamato fuori da qualsiasi cosa, sta scrivendo. Ma che fa? Ma dov'è? Dov'è? Sta scrivendo un libro. Vabbè, tutto il giorno, però la giornata fate. Ma come, a due mani o a quattro mani questo libro? Questo dovete chiedere a lui, io non lo so. Ma non lo sente proprio, ma neanche io non lo vedo neanche in giro. Ma no, capito, ma non lo vede neanche, non lo incrocia mai. Ma stai rinchiuso a scrivere il libro? Qualche volta ci sentiamo anche telefonicamente, ma non parliamo di politica. Ma cosa fa tutto il giorno? È interessante, vi siete sentiti telefonicamente? Vedi? Ma parliamo così da vecchi amici, non da politici. Abbiamo preso ma come sta moralmente? Cioè gli manca un po' la, come dire, la c'è ancora un ufficio pazzesco. A me ha detto che era molto sereno, che se la stava anche godendo. Poi addirittura. Sì, perché dice faccio il pensionario d'oro, posso un sacco di tempo libero, posso andare a fare le immersioni, eccetera. E c'è un ufficio pazzesco alla Camera, che è una vergogna quella roba lì, un ufficio enorme. Alla Camera. Guarda, io non ho visto il suo ufficio, ho visto l'ufficio di Casini, l'ex cosa, è un ufficetto. Come un ufficetto? No, è piccolo, mi piace di lui, ma è abbastanza piccolo. Piccolo, avevano detto che era un ufficio galattico, là, tutta stupidaggine. No, cioè, per carità, rispetto a un normale impiegato è qualcosa di eccezionale. No, vabbè, certo. È relativamente piccolo, veramente piccolo. Comunque, senta, scusi Alemanno, ma come c'è Fratelli d'Italia, varie altre formazioni piccole, cioè la destra, eccetera. Cioè, trovare un nome è piuttosto complicato, non è che alla fine è meglio restare, che ne so, Fratelli d'Italia, oppure bisogna trovare per forza una cosa nuova? No, non bisogna trovare per forza una cosa nuova. L'importante è che ci sia un segnale di aggregazione, di apertura, insomma. Che la parola destra la userebbe lei? Forse no, forse più. Cioè, Fratelli d'Italia non è male, anche la parola alleanza non è male. Bisogna un po' lavorare su queste cose. Comunque, destra forse è meglio, perché ghettizza un po' troppo. Bisogna lavorare anche sull'elettorato, oltre che sui nomi. Beh, quello sicuro. Perché sennò qui, secondo me, quello si sicuro. Fanno grandi secondo nomi. Secondo me, molte delle persone che non sono andate a votare in questi ultimi mesi sono anche gente di destra. Senta, ma lei è a favore del mantenimento del finanziamento pubblico dei partiti? Perché si è aperta una discussione importante in un'intervista di Sposetti, il nostro amico Sposetti ha detto delle cose tremende su Letta e sul finanziamento pubblico. Secondo me lei è a favore un po' del mantenimento del finanziamento pubblico, non questo ovviamente. No, io penso che ormai sia fuori dalla coscienza della gente. Cioè bisogna eliminarlo? Bisogna eliminarlo, bisogna rendere più facile, più trasparente, magari anche defiscalizzare quello privato, però bisogna contare su quello, cioè bisogna mettere l'elemento di volontarietà, cioè chi vuole finanziare i partiti deve volerlo, altrimenti non è possibile. Questo è buono. Parenzo, e veramente invito anche il Parlamento, insomma, gli ex colleghi parlamentari a tagliare corto, perché non fa bene né alla politica né alla democrazia. Volevo che Alemanno facesse che Alemanno, in una giornata come quella di oggi, facesse un plauso a Papa Francesco. Perché? Quello forza è cattolicissimo. Ma anche riconoscendo in queste splendide parole che ha usato sull'immigrazione, però, e faccia anche un piccolo mea culpa il cattolico Alemanno. Perché? No? Mea culpa perché? Perché il Papa ha usato parole molto chiare sulla questione dei migranti, andando lì e abbracciando questo mare che ha provocato tanti morti. Ti dirà, è vero, abbiamo sbagliato. Ma nessuno ha mai preso a calcio in faccia nessuno, cioè nessuno ha mai pensato questo. Voi però sull'immigrazione avete usato parole durissime nei confronti dei migranti, anche ex amici della Lega. Le parole durissime sono nei confronti di scafisti, tutti quelli che sfruttano l'immigrazione, quelli veramente. Quindi ha fatto bene il Papa andare a Lampedusa ad abbracciare questo mare di migranti. Ci mancherebbe altro che il Papa non facesse questo. Il problema però è un altro, il problema è che comunque sia per noi, ma anche per gli immigrati, ci vogliono delle regole, perché poi se non ci sono le regole. Il problema è la politica, che poi. Ho capito, però. Devono essere delle regole di legalità che valgono per tutti, per gli italiani come per gli immigrati. Non deve essere diverso, è un problema di legalità per tutti. Punto. Senta, Alemanno, un'ultima cosa, ma lei se lo immagina. Anche di rispetto, cioè l'importante è rispettare. Io devo rispettare l'immigrato, ma l'immigrato deve rispettare me, che sono italiano. Ma mica è così chiaro. Spesso all'immigrato si crea una situazione quasi rovesciata, siccome è immigrato, bisogna consentire. È così, l'importante è che ci sia reciprocità. Allora, io quello che voglio sapere da lei è se lo immagina un centrodestra di nuovo con tutti i partiti, una destra, Forza Italia, eccetera, eccetera, guidato dalla signora Marina Berlusconi, oppure è una cosa che per lei è totalmente, al di là di quello che ha detto lei, che l'ha escluso, quello lo consideriamo, però si fa questo nome. Secondo lei è impossibile? Allora, io penso che sia impossibile, che non sia, diciamo così, neanche il migliore messaggio, fermo restando che ovviamente ogni cittadino è libero, si può candidare e può decidere. Però lei dice la dinastia non va bene. Sarebbe un modo sbagliato anche per la signora Berlusconi di cominciare a fare politica, insomma, no? Per cui io poi penso una cosa, e questo vale per Marina Berlusconi, come può valere, che ne so, per Alfio Marchini, o può valere per Montezemolo, per chiunque. Prima di fare politica ai vertici bisogna farlo anche un po' alla base. Cioè, beh, ma la signora Marina Berlusconi non è che si può mettere, si fa a chiedere di fare, non è che si può mettere a fare la politica così, distribuire la gavetta, non può fare la gavetta. Secondo me invece la gavetta e la militanza tornano a essere importanti dopo varie esperienze. Cioè, se vuole faccia un po' di gavetta, se vuole fare politica faccia un po' di gavetta, cioè, nel senso che se uno ha voglia di fare politica si fa legge, perlomeno il parlamentare, non dico vada proprio in giro a attaccare i manifesti per anni, anche se le farebbe bene, però no, ce la vede, le farebbe bene alla signora Marina Berlusconi ma attaccare qualche, ma non si fanno i manifesti, come non si fanno, chi gliele manno se non si fanno i manifesti? Certo che si fanno i manifesti, ma sì, è un po' difficile, che adesso ci sono regole molto stringenti, non è più come una volta, ma sì, però si va ancora in giro con i camerati ad attaccare i manifesti. Come? No, dico, si va ancora in giro con i camerati ad attaccare i manifesti la notte. I camerati, Ma sono cose superate. Ma sì, ma sono cose morte. Tu non vai in giro con i compagni ad attaccare i manifesti, no? Come? No, ci sono, i compagni ci sono ancora, che io no, ma no, da ragazzino ci andavo io. Tu ci sei andato? Ah, quando avevo 14 più moderni. Quando avevo 14 anni, certo che andavo ad attaccare i manifesti. Certo, anch'io quando avevo. Però ecco, a proposito di modernità, perché non la legalizziamo sta prostituzione? Io la legalizzerei, Alemanno, lei che dice? Io proprio legalizzerei proprio i bordelli di un proprio vecchio stampo, le case chiuse. Questo mi sembra proprio molto moderno, molto innovativo. Beh, come? Invece io mi limiterei semplicemente a vietare realmente un reato penale la prostituzione in strada. Poi ma no, ma come? Quella che avviene fuori dai luoghi pubblici, questo è un problema che... E dove vanno poi? È giusto non normare. E dove vanno? Ma... il problema è, innanzitutto c'è un problema di non solo di decoro, ma anche proprio di educazione. Ho capito, però dove vanno questi qua? Tanto esisterà sempre la prostituzione, non è che si può eliminare con la bacchetta magica punendo la prostituzione per strada. Non credo che uno Stato si metta a legalizzare o addirittura a mettere tasso sulla prostituzione, faccia una bella figura in nessun caso. Vabbè, allora altro che modernità. Alemanno, grazie, buona serata. Saluti. Grazie, pubblicità. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie. Buona serata. La Zanzara. Siamo qui alle 20:14, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Roma. Laura, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Senta, lo sa che a proposito della dichiarazione della Zanardo, lei, come dice, ha detto una grande stronzata. Ah, io ho detto una stronzata. Sì. Ah, io ho detto una stronzata. Perché l'esibizione del corpo delle donne nella pubblicità non è una delle più grandi invenzioni. Ma no, invenzione, ho detto invenzione, è una roba che c'è da un sacco di tempo e che è un sintomo di modernità. Naturalmente ci possono essere degli eccessi, degli errori, delle sbavature, delle porcherie anche, ma non c'entra nulla. No, è semplicemente un meccanismo che ormai è venuto a noia. E vabbè, ma a lei a noia, altre persone invece no, se ne faccia una ragione. No, non è una ragione, ci sono studi sulla comunicazione pubblicitaria che dicono che l'esibizione del nudo... Sì. Anzi, gioca a svantaggio del prodotto. Vabbè, e lei pazienza, poteva chiederlo, aveva sotto mano Toscani, poteva chiedergli chi ha fatto storia della pubblicità senza esibire tette e lati B. Benissimo, allora? Allora niente, lo so dirle questo, che le stronzate soltanto per essere uno contro tutti non ha senso dirle. Ma non è uno contro tutti, io leggo della Zanardo pezzi di corpi come carne da macello, donna oggetto, una delle questo cause però, di violenza, però no. La donna deve avere un eros, lo vogliamo sentire questa ma qua? La donna deve va essere... contestualizzato, cioè questo era riferito anche a una fase storica, un periodo in cui c'erano delle inchieste giudiziarie, degli scandali. No, ma adesso l'ha detto, è una cosa ma di adesso. Sono cose ma non è di adesso, è la teoria sua che è espressa anche nel ragazzi, ma chi se ne frega? Delle... Il problema fondamentale, oddio, Laura, è che ci sono le leggi. Se oggi uno fa una pubblicità che ha in qualche modo dei caratteri offensivi, dei caratteri che suscitano, no, che toccano il pubblico, il pubblico pudore, la pubblica decenza, ci sono le leggi che le proibiscono questa pubblicità, cioè anche eccessive, secondo me. ma per certo, cui... c'è un garante della pubblicità qui. Sì, poi tutta la filosofia, tutta la filosofia che si fa intorno a questa roba, tutto il, i discorsi, cosa provoca nella mente delle donne, di chi guarda, cosa no. Quale immagine femminile crea, sono tutte stupidaggini. Ma su quello sono d'accordo con lei, perché non si può affermare che l'oggettivizzazione del corpo provochi la violenza. Questa è una roba che è, cioè è un dribbling che non si può fare. Ma io quello fare, dicevo, no? Laura, dicevo solo quello, nient'altro. Sì, sì, però la pubblicità, l'esibizione del corpo non è un'invenzione, è una, cioè una roba sì, che ma ormai qui non è un simposio, non è una stare, sì, cioè. Ma non è una un discorso accademico sulla pubblicità, cioè è il fatto che ci sono dei deputati, delle senatrici che hanno presentato un disegno di legge per punire anche col carcere e con multe molto pesanti chi secondo loro, chi secondo una commissione, una sorta di giuria, eccetera eccetera, ha offeso il corpo delle donne con le pubblicità. Una cretinata. Perché cioè, ci vuole poi l'interpretazione su quella pubblicità, cioè la pubblicità che non offende, quella che offende, un disastro, disastro totale. Igor da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Volevo salutare innanzitutto Parenzo. Sì, e eccomi, come mai non come mai non devolvete il salario di Parenzo, ad esempio, a Bisignani? Perché dovremmo devolvere il salario mio a Bisignani? Bisignani credo che abbia già del suo abbastanza, eh? Cioè non ho capito. Non ho capito, dovrei devolvere la questione dell'immigrazione. Ma io non ho capito. Igor, dove vuole arrivare lei? Me lo spiega? Molto in alto. Molto in alto, vuole arrivare in alto, vabbè, sì. Allora, innanzitutto, vabbè, tenendo conto di questa visita del Papa, che è molto un evento di comunicazione, ma e ha significati ovviamente che possono essere interpretati a favore e contro, come abbiamo sentito fino adesso. Ma la questione è, l'immigrazione in Italia fino ad oggi com'è stata? Nel senso, è dal 91, no, che arrivano questi barconi, arriva la gente, eccetera eccetera. La questione è che arrivano sempre delle persone che sono dal terzo mondo, non abbiamo mai avuto un'immigrazione di tipo, tra virgolette, culturalmente elevata. Vabbè, ho capito. Grazie tutti. Igor. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera. Allora, è la prima volta che chiamo, no? Io niente, sì. Volevo fare un commento sul Papa. Allora, il discorso è che l'altro giorno mi capitava di leggere un articolo in cui si diceva che c'erano un paio di questi telepredicatori americani, no? Sì, sì, sì. Che avevano fatto appello ai fedeli dicendo che Gesù sarebbe tanto contento se i fedeli avessero dato, diciamo, il denaro necessario a rimettere a posto i loro elicotteri. Ecco, allora il discorso era, ma forse è più apprezzabile questo, nel senso che loro si rivolgono ai propri fedeli, in modo volontario chiedono dei soldi per riverniciare gli elicotteri. Il problema invece è che il Papa, lui vorrebbe utilizzare la legge. Allora, la legge è una cosa che riguarda tutti, è forzosa, è coercitiva. Lui sì, però non mi sia troppo complicato, non abbiamo capito niente, qui siamo abbastanza basici nei discorsi, non ho capito però niente. Io preferisco anche la cazzaraggine di un telepredicatore americano che chiede i soldi per riverniciare il proprio elicottero e dice, oh, datemi i soldi perché qui Gesù è tanto contento se mi date i soldi. Piuttosto che appunto questi grandi messaggi universali che perché. Ma io sono d'accordo con lei, Massimo, sono d'accordo con lei. Però... Thomas da Padova. Che c'è, Parenzo? Che dici? No, buonasera, Cruciani. Buonasera. Thomas, buonasera. La conoscevo io un Thomas a Padova. Mi fa ridere. Ecco, prego. Forse ci conosciamo perché. Lei è Thomas Panto? No, non sono Thomas Panto. No. Vabbè, su, veloci, dai. Sono un altro Thomas. Vabbè, però comunque. Intanto complimenti a Alemanno che è benvenuto nel popolo della partita IVA, che ci vuole, lo vedo come una cosa positiva. Allora? Volevo dire, allora Parenzo è un grandissimo paraculo, il problema qual è? Nel senso che lui cavalca sempre i temi della sinistra, quelli classici, tipo questo del corpo delle donne che è usato nella pubblicità. Il problema è che nella sinistra effettivamente no, ma su questo ho dato ragione a Cruciani. No, su questo lei non ha capito un tubo, perché secondo me ha ragione Cruciani invece su questa questione della pubblicità delle donne. Anzi, su altre questioni, sulla questione degli immigrati invece la penso assolutamente in modo l'accoglienza, diverso. L'accoglienza. Bisogna saper distinguere, non è che uno è di sinistra, uno è di destra, uno è sulle cose, non sulle etichette. Grande ritorno alla Zanzara, Paolo Villaggio. Ciao Paolo, come sta? Bene, bene, bene. Come andiamo? Cioè, tutto bene, tranne forse la mancanza assoluta di euforia che avevamo noi italiani solo 6 anni fa. Lo so, la situazione è quella che è. Vabbè, ma voi siete così accomodanti, vabbè, se ne frega. Perché dobbiamo fare? Intanto ci divertiamo. Che dobbiamo fare? Intanto ci divertiamo. Ma l'altro giorno eri con dei pantaloni e con dei osceni. No, che osceni? Lui ultimamente veste in modo un po'. No, perché osceni? Perché devi fare queste critiche? Perché alle volte scusami. Parenzo dice che c'è. Dico che queste tuniche enormi ogni tanto. No, avevi delle scarpe bellissime. Com'eri vestito, scusami Paolo? Ma quando, scusami? L'altro giorno, non mi ricordo dove, a Viterbo, dov'era? Maledizione, stai confondendo con un altro. No, quando stavi in gonna e in giacca, là. Ecco la gonna. In gonna e in giacca. Sì, una specie di gonna avevi, no? Beh, vabbè, fingiamo di ricordare. No, che Dobbiamo fingere, eccolo qua, c'è una specie di tunica nera, tunica, no? Appunto. Una tunica nera. Sì, il Gandoro. A Pietrasanta, allora, a Marina di Pietrasanta, sì. A Marina di Pietrasanta, sera siciliana, ti spiego perché. Mi hanno invitato per fare il conduttore di quegli incontri che faceva un poverino che poi è morto. Sì, cioè, no. Tutte le volte che scelgono un presentatore, dura 2 anni e poi muore. Quindi adesso... ho aspettato... Sì. Un rischio notevolissimo, perché tu capisci, io sarei il terzo. Sì. Quindi parte il conteggio adesso. Partono i 2 anni da ieri. Il conteggio, hai capito? Sì. Quindi in questo momento io sono passato a una religione diversa da quella cattolica, che è una religione che ha un al di là piuttosto scuro. Sì. E spero di guadagnarmi il vestito, naturalmente, il paradiso islamico. Hai capito? Quella cosa nera. È una gandora, cioè l'abito nazionale marocchino. Addirittura? Sì. E perché in questo modo, perché tu l'hai messo? Scusa, te lo chiedo, perché hai indossato questo? Per la morte? Io sono già pronto a un al di là naturalmente glorioso. Una specie di sudario, sì. Sostanzialmente, no? È un sudario, ecco, sì. Vedi, tecnicamente sono cosa si chiama sudario. Come siete colti? Sì. Come la sacra sindone, no? Ma non c'era caldo, non c'era troppo caldo. No, lì la sindone è un'invenzione. No, no, non dica solo cose. Che adesso in quella religione lì c'è un'innovazione, non si fa più la cremazione, ma la bollitura. No, è vero, addirittura. Ma che dice, dai, su. Io vengo bollito in un ristorante qui di Pietrasanta, dove sono ospite, dove stanno preparando una pentola adatta, naturalmente. Certo. E la bollitura a voi, naturalmente, che non siete del mestiere, non gliene frega un cazzo. No, la bollitura per uno piuttosto corposo come sono io può durare anche 6 ore. Ma tu vorresti finire in questo modo bollito come, sì, come vorrei, come Fantozzi all'epoca, no? Ho già preso gli accordi, come no? Hai già preso accordi per il filmato, tutto, le fotografie, ho venduto tutto. Comunque, ti ho visto in queste foto, devo dire la verità Paolo, ti ho visto in queste foto in grandissima forma, altro che al di là, altro che morte. Ti ho visto in grande forma, vispo, anche un po' dimagrito, devo dire la verità. Sì, è vero, sì. Anche no, un po' dimagrito. La pentola, veramente, altrimenti la bollitura può durare 12 ore, una rottura di Ma che di scherzi. Terribilmente. Avevi quasi un aspetto papale. Hai visto oggi il Papa a Lampedusa? No? Che immagine è stata quella del Papa a Lampedusa? Il Papa lì mi sembra abbastanza pericoloso, perché ha usato il linguaggio banale della televisione ormai, no? Sì, sì. Vedi, ha un successo incredibile. Cioè, più si abbassa il linguaggio, più si viene accolti con grande entusiasmo. Lui dice buonasera a tutti, sì. Come la va, passa i bambini. Insomma, sì. Si costruisce una serie di aneddoti, ma per ora, insomma, non c'è. Adesso va a Pantelleria, appena c'è qualche, purtroppo, a Lampedusa, appena c'è qualche vento, si parla di lui tutti i giorni, hai capito? Un po' troppo, però. È un po' troppo, insomma, si è costruito un'immagine di simpaticissimo, di grande papa, ma non c'è ancora detto se esiste Dio o no, questa è una cosa. E questo è un casino. Scusa un attimo, Paolo, però a me mi ha colpito una frase: non sappiamo più piangere. Ma non è vero, in Italia piangono tutti. Non sappiamo più piangere. In Italia è il paese dei piangeri. C'è la lacrima un po' facile, effettivamente. Ma quelle sono frasi più che altro, frasi storiche che non sappiamo più piangere. Cosa vuol dire? Un momento drammatico per il paese. Io ho 80 anni e quindi, sinceramente, è il primo momento in cui vedo dovunque un po' di disperazione. Soprattutto nella generazione dei cinquantenni. Beh, lì no, la versiliana no, lì c'è grande felicità, grande gioia, grande divertimento, altro che... No, la versiliana è una cosa cimiteriale, è terribile. Come cimiteriale? Ma come l'hanno invitata, dice questo, scusa. Il conduttore. È lì ospite di una roba. Ma gli ospiti sono tutta gente che viene, non dico a piangere, ma si lamenta. Per esempio... Tutti i proprietari di bagni e di ristoranti dicono che c'è un calo, che ormai non si guadagna più. E vabbè, pazienza, non è che c'è il Bengodi per l'eternità. No, a me non me ne frega niente, perché ormai sono di quelli che li hanno fatti. E adesso l'idea di non fare più soldi rimette in una situazione di lacrime vere. Lo so. Scusate, ma non viene la ospite Brunetta? Alla Versiliana? Sì, me lo mandi? Ma Brunetta è simpatico, lui è simpatico, ti sta simpatico Brunetta? Molto, sì. Perché? No, così è troppo piccolo di statura, non lo so. No, perché no, ancora con cosa quello. Vuoi insinuare? No, voglio dire, ovviamente è uno che vivace, dall'eloquio vivace, dalla battuta pungente, le suona, uno sta lì a suonarle. Sì, ma che cos'è che non ti va tu? Perché me l'hai detto, me l'hai proposto come no, te l'ho proposto perché uno molto pungente, uno molto, molto feroce anche nelle risposte, un incazzoso tremendo, appena c'è una domanda fuori posto si incazza subito come una bella, fa i dossier contro i giornalisti dicendo che non rispettano la par condicio, insomma è uno che non le mando a dire. Sì, vabbè, ma adesso perché parliamo di Brunetta? Prima lo vuoi proporre come compagno di giochi? Sì, te lo voglio proporre come... Lo mandi qui alla Versiliana, è magnifico. Beh, là è un posto dove ingaggiano una battaglia pazzesca, Comunque, solo guarda... vedi che io da queste parti sono venuto qui 45 anni fa alla bussola di Bernardini. Il clima era di un'euforia per dei tanti. Adesso invece il clima è piuttosto rattristante. Sì. C'è poca voglia di ridere, mi dispiace, di sghignazzare, hai capito? Soprattutto i vecchi poi sono disperati. E vabbè, però adesso non ci possiamo rattristare così, sennò ci mettiamo tutti a piangere. Ma ci mette una tristezza, signor Villaggio, incredibile. Sennò siamo, diventiamo tutti tristi, noi siamo qui un po' usi anche il suo cinismo. Io l'ho fatto apposta, no? Una perfidia era il marmo. Ma sì, stiamo passando con la macchina in mezzo a un mare di marmo bianchissimo. Sì, vabbè, certo, quella zona. Mafra. Vabbè, Villaggio, a presto, un abbraccio. Buona serata, signor Villaggio. A presto. Perché? Cosa mi consigli di fare? Scusami. No, nulla, ritirarti definitivamente con quella tunica meravigliosa. C'è la borsa, aspetta un secondo, dopo ti richiamo, borsa. La Zanzara. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy estanco como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno, no le importa mucho si non prendo sueno. Sì? Boso? Dimmi. Son Parenzo, come stai? Bene. Hai visto il Papa a Lampedusa, finalmente, bellissimo. Gli immigrati. Cosa vuoi farci? Anche il Papa ha diritto di fare i suoi viaggi al mare. Ma che mare? Ha dato una grande lezione di civiltà, Boso. Grande lezione di civiltà. Siamo tutti responsabili, ha detto il Papa. Ma tutti. Guarda, se tu ti senti responsabile, va bene così. Io sono un irresponsabile e chiedo al Papa che mi dia un po' di soldi, un po' di terreno per mettere dentro gli extra comunitari che vengono. Io speravo che tu oggi, come dire, abbassassi le armi del razzismo e del tuo solito linguaggio. Motivo. di fronte a quel, motivo. A quel bellissimo bacio che il Papa ha dato a quel, ragazzino migrante. Ma il Papa può baciare chi vuole lui. Ma guarda, io ti trovo ogni volta, provo a chiamarti e spero che tu diventi un attimino più sensibile, invece sempre... Per sempre... nessun motivo, beh, io non divento ipocrita come tutti voi, eh. Ma tutti noi chi? Cioè il Papa è andato lì a Lampedusa, ha abbracciato quel... Voi siete una banda di ipocriti, voi della funzione informativa siete una banda di ipocriti. Ma noi chi? Ma tu, voglio dire... Voi seguite... Ma tu ti reputi un buon cattolico? Dal popolo. Ma ti reputi... non me ne frega niente. Ma ti reputi un buon cattolico, tu? Io mi reputo... Sei cattolico a corrente alternata, sei. Di difendere la propria famiglia e la propria ma casa. Ma quale? Ma chi vuoi che venga lì su in montagna da te, forza? Vedi, non hai capito niente della vita. Senti, io la voglio tua fortuna è essere di una persona che non capisce niente, per cui sei una persona felice. Sì, per quel motivo là sei felice, perché non capisci niente. Guarda, io vorrei che tu rileggessi le parole del Papa a Lampedusa. Io non rileggo niente, io seguo quotidianamente la vita, guardo cosa costa e cosa succede nel mondo. Il Papa ha deposto in mare una corona di fiori. Ma non me ne frega niente di quello che ha fatto il Papa. Per ricordare i migranti morti in mare, vergognati almeno. Come voi giornalisti. Ma cosa è ipocrita? Voi siete dei venditori di fumo. Siete delle persone che permettono la violenza in casa da parte di questa gente. Ma quale violenza? Qui si parla di persone che sono morte in quel mare. Però su questo devo dire... Siete dei negrieri. Voi vendete la carne umana per il vostro audience. Signori, però devo dire la verità. Su questo... Su siete questo, ipocriti. Su questo devo dare un pizzico di ragione a Boso. La dico grossa. No, la dico grossa. Voi siete solo che degli ipocriti. Dare ragione a Boso. No, devo dire... Se fosse la possibilità di far audience... Voi sareste finiti. Ma cosa cavalcate con ipocrisia tutte le disgrazie delle persone. Allora, delle noi, mi dica la verità, boss. Allora, lei è contento quando un barcone affonda? Sì. Eccolo. Sì, perché pagano quelle persone che giocano sulla pelle della gente. Ma muoiono delle persone, non gli scafisti, vergognati! Ma stai zitto, Torobetto. Ma come, si fa a dire? Ma che umanità hai? Ma come si fa a dire che ti piace quando cadono, quando affondano le navi? Ma richiamalo subito. Vergogna. Ah, roba. Riccardo da Milano. Ma quale Riccardo da Milano? Richiama subito Boso. Riccardo da Milano. È una cosa disumana, non puoi farla lasciare così. È disumano, Riccardo. È disumano. Ma ciao Giuseppe, ascolta due cose velocissime. Ho sentito prima Toscani Oliviero. È disumano, è disumano. In Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti li accettano e sono un grandissimo paese. Io sono d'accordo, ma probabilmente chiude, ha dimenticato due cose. Uno, hanno delle politiche per gestire questo flusso. Due, va bene, sì, ma sappiamo che è diverso, Riccardo, ma lo so anch'io che è diverso. Toscani e Parenzo non capiscono nulla, sono paesi diversi, sono paesi molto diversi, non si possono fare paragoni con gli altri paesi. Dai, Cristiano da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Volevo soltanto portare il contributo diretto, pensato perché in prima persona, per sottolineare quello che lei afferma, cioè che è ipocrisia di certe dichiarazioni di assessori politici in genere sul pudore, sul fatto di fare le donne a pezzi. Un piccolo aneddoto, la nostra agenzia fu incaricata da un mobiliere romano di appunto pensare, ideare una campagna pubblicitaria. Noi ci inventammo l'olio alle misure giuste per il tuo arredamento, questo 6 metri per te, i poster che c'erano una volta, in luogo degli attuali 4x3, avevano uno zoom su un meraviglioso balcone che era quello di Manuela Arcuri, e lei con le sue mani teneva questo filo giallo con scritto questa frase che le ho appena detto. Bene, io fui denunciato e dovetti andare per ben due volte a Milano al Tribunale della Deontologia Pubblicitaria per difendermi dall'accusa di fare a pezzi le donne o donne oggetto. Com'era la scritta? Com'era la scritta? Lolli ha le misure giuste per il tuo arredamento. C'era stata ma perché le hanno rotti i coglioni? Perché sono bigotti? Perché questi organismi burocratici di controllo servono solo a dare lo stipendio a qualcuno. Certo, questo ma è le il dico punto di fondamentale. Più, le dico di più, non si fa in tempo neanche a togliere i cartelloni, perché come lei ben sa, il cartellone dura 15 giorni. Ora, tra che arrivi la raccomandata, la risposta, faccio in tempo a fare altre tre uscite con quei cartelloni, quindi sanno già prima di fare le dichiarazioni, ma gliene potrei portare altri due di esempi identici dello stesso mobiliere con tre campagne. Io poi ho insistito, sono andato dentro, a momenti mi ingabbiano, le dico guardi, un prete addirittura, sempre a Roma, la campagna era una campagna locale, la chiesa dalla parte del, non mi ricordo la chiesa, voleva denunciarmi perché un altro cartellone aveva praticamente questa volta le gambe fuori, Lolli immobile, quindi immobile perché faceva ginnastica, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, chi da una parte e chi dall'altra, comunque tutti si schierano per farsi va bene, la loro politica. Va bene. Grazie. Non mi molesta il moschito. Allora, lo sai che la signora Scorchina, Raissa Scorchina, te la ricordi? Quella che manda a fare i culo i giornalisti, ma che cazzo sono vuoi? In diretta alla radio, scusami Gennaro. Ma chi è? Ti richiamo, Ma chi scusami, è? No, è Gennaro Caravano, aspetta un attimo che ti metto in onda in diretta. Eccomi, Gennaro, dimmi tutto. Ti chiamo proprio per i temi, per la puntata di... Sì, sei in diretta alla Zanzara su Radio 24 in viva voce, scusami Un saluto. Sì, grazie Gennaro. È Gennaro Caravano perché mi invita domani a Omnibus per promuovere anche il libro tuo, quello che abbiamo scritto. Ma sei impazzito? Cioè, ma che fai? Metti le persone in diretta. E se chiama Caravano, che devo fare? Perché perché ce l'hai con Caravano? Ma non ce l'ho perché con Caravano. Perché non ho capito perché ce l'hai con Gennaro Caravano. Vabbè, ma sei impazzito. Vabbè. Gennaro, grazie di tutto. Saluta anche il direttore Mentana moltissimo da parte mia e Giuseppe non lo so perché non... Ma perché sei sempre il solito lecchino? Ciao, grazie. Ciao. Ecco, ottimo. Grazie Gennaro. Vabbè, tutto in diretta, come sempre massima trasparenza ovunque. È vecchio per me e poi a me i soldi non interessano. Chi lo dice questa? Una russa, la Scorchina. Una russa, ma lei con tutti una trentenne russa, Raissa Scorchina. No, un'intervista fondamentale a un giornale russo, è una delle di quelle di Arcore, no? Vabbè, per forza. Ci siamo visti per quasi tre anni. In questi tre anni mi ha chiamato ogni giorno. Finiva il lavoro e mi chiamava alle 3 del mattino. Perché dicono tutte così? Quanto cazzo di telefonate faceva Berlusconi? Finiva il lavoro e mi chiamava alle 3 del mattino. A volte cantava una canzone per me. Era così romantico. Silvio era sopravvissuta a una grave operazione in America nel 2007. Quando tornò a Milano ci siamo incontrati e abbiamo parlato seriamente. Silvio mi disse che non poteva essere più il mio uomo. Disse: Raya, sono troppo vecchio per te. Vuoi un altro? Sono molto felice che un uomo come Berlusconi mi rispetti, non per la bellezza ma per le qualità umane. Beh certo, per la bellezza, guarda in faccia sta Scorchina, una cosa terribile, ho già detto. Proviamo a chiamarla, va. Pietro dalla provincia di Milano. Sì, buonasera. Dica. Senta, volevo chiedere questo. Bisogna che qualcuno dica al Papa che lui, come il Vaticano naturalmente, è il più grande proprietario terriero al mondo. Sì, quindi giusto. Perché non vende qualcosa per aiutare gli emigranti? Bravo. Questa è una bella provocazione. Sì, di una bassezza. No, ma che bassezza? Ha ragione. Non sta a me difendere il Papa perché non mi interessa. Pietro, allora? Papa, sì, ecco, quindi è un po' banale. Chi è questo? Boso? È Boso? È la russa? Russa, non Ignazio, ma... Ma Boso, continua a chiudere il telefono in faccia? Che fai? Ma mastichi? No, stai masticando? Una cosa pazzesca, succede di tutto qui, Vabbè, allora Pietro, non ho capito, il Papa lei dice fa il gradasso con i soldi nostri. Giusto? Comunque rispetto a... Pietro, non c'è più. Mario da Roma. Buonasera a tutti, Luciani. Dica. Io diciamo intervengo in merito a una frase detta dall'ex sindaco Levanno, che lui diciamo filamenta che ha perso perché la gente non ha votato. Ora, da ingegnere quale dice di essere, dovrebbe rendersi conto da solo che il 45% degli italiani sono comunque un campione molto rappresentativo. Quindi o lui dice o non vuole ammettere che ha perso oppure è ignorante. E se mi consente un altro minuto. No, ma l'ha detto lui, consoliamoci con l'aglietto, che è una tipica frase romana che vuol dire insomma che uno si consola con poco. Con poco rispetto alla sconfitta. Però, uno deve trovare sempre delle spiegazioni, no? L'astensione. Non può dire ho perso perché la gente non mi vuole, punto e basta. Ma infatti è molto semplice, ma d'altra parte. È un'onestà intellettuale, insomma. Altrimenti fa anche brutta figura dire certe cose che sono poco realistiche. Vabbè, allora? Sì, allora, sì, ho capito. Allora, diciamo, volevo estendere un pochino questa cosa, anche, diciamo, tornando un po' al clima delle elezioni, che la gente si lamenta della classe politica, la gente che ci governa, eccetera, come se la classe politica fosse al governo per diritto di nascita. No, questa gente che ci governa ce la mettiamo noi ogni anno. Se non siamo capaci a ricordarci il passato, se non siamo capaci a valutare praticamente quello che ci dicono, poi ci ritroviamo là anno dopo anno, tutto qua. Va bene, traffico. Buonasera. Torniamo subito, traffico. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto. Siamo qui con Napoli, Ciro, ascolta questo, ascolta questo. Ciro, buonasera, dica. Ciao, Cruciani. Senti, volevo dire questo, che secondo me l'elezione di Papa Francesco è la più grande operazione di marketing che abbia fatto il Vaticano, battendo clamorosamente i nostri politici che dovrebbero prendere esempio dal Vaticano. Papa Francesco, gli hanno addirittura tolto la macchina lì a rischio, l'hanno messa pure a costo di farlo ammazzare, per recuperare fedeli, perché per la Chiesa recuperare fedeli è come la politica recuperare voti, e che loro non sono stati in grado di fare un cazzo. Cioè, lei dice una grande operazione di marketing, della Chiesa. Sì, per recuperare, perché i fedeli stavano scappando ormai, con tutto quello che stava succedendo, con tutto il casino che stava succedendo. Ma questo non è necessariamente negativo, no? Cioè, la Chiesa fa anche questo. È negativo, ti dico perché, secondo me. È negativo perché è fatto esquisitamente per i soldi. Ma in che senso per i soldi? Perché è un buon pastore. Perché perdi fedeli nel mondo significa perdere oboli, perdere... come si dice? Donazioni, perché la gente rimane, insomma... si allontana, lo hanno capito e hanno fatto questa operazione. Quindi tutto, cioè, l'operazione di marketing, prima eleggendo Papa Francesco e poi facendogli dire certe cose, eccetera, eccetera. Certe cose di facendo andare per la gente, togliendogli la macchina, mentre i nostri politici che cosa hanno fatto? Con Monti, per esempio, non si sono tolti neanche un euro. Capito, grazie. Dovevano far finta. Ho capito. Mi rende isterico. Oh. A proposito di grillini, è tornato Silvano Agosti, te lo ricordi? È stato ospite da noi, il mitico Silvano Agosti. Signor Agosti. Beh, regista, ex. Ah. Sì. Se dai casa e cibo all'uomo creativo non diventa criminale, senti. Mi risulta che sono tutti truffatori adesso che non hanno la certezza del necessario. Se invece, come da sempre, la natura è predisposta a fare, si dà agli esseri umani la certezza di un buon nutrimento e di una casa calda in cui abitare, calda anche di affetti, allora l'essere umano secondo me diventa creativo ed è impensabile che compia dei crimini. Tutto questo sul blog di Grillo, eh? Ma è quel signore che teorizzava di non lavorare. Sì, esatto, sì. Silvano Agosti, ci danno la biada rancida dei talk show. E in cambio che cos'è che gli viene dato? Figurati, cos'è? I talk show, capito? I talk show sono la biada rancida che viene data la sera, nei rari momenti di distacco dalla pena del lavoro o del non lavoro, che è ancora peggio. Sempre facile. Uno dei nuovi guru di Grillo, ma l'ascoltatore di Radio Padana però sono il top, quello riportasse in Vaticano coi pullman è inarrivabile, riportasse in Vaticano coi pullman. Io vorrei che lui è andato lì, adesso con la papa mobile, quella di fortuna lì, si fosse portato lì una cinquantina, un centinaio di pullman, che li avesse caricati e se li fosse portati in Vaticano, non come ha fatto Duce quella volta che ha detto armiamoci e partite, no, diamo l'esempio, un bel esempio, ognuno se li porti a casa sua, come quelli di sinistra che li amano tanto, talmente tanto, che però nessuno ne vuole avere uno a casa sua o vicino a casa. Grazie, ascolto per radio. Portali a casa tua, Parenzo, portali a casa tua. I soliti Baluba, i Stefano soliti Baluba che chiamano lì con questo. Se li l'argomento forte è portateli a casa vostra, capito? Certo, l'argomento forte fortissimo, di questi, Stefano da Vicenza. Di questi campioni di civiltà. Stefano? Sì, scusi, dottor Cruciani, sono qui. Vada. Senta, io volevo chiederle semplicemente un favore. Sono degli anni ormai che la sento sì. Sempre ho stima di lei, ho stima della trasmissione, però non ho mai sentito dire se lei stima i suoi ascoltatori o se si pensa delle cavie da spillarle, dei pareri, voglio sentire che lei dica, voglio insomma, se lei se la sente, se lei pensa che sia così, che lei dica che i suoi ascoltatori lei li stima. Ma certo, ma questione di stima dipende poi, Stefano, non è che sono io, li abbraccio tutti fortissimo, chiunque ascolta la Zanzara, dopodiché quando quelli, gli ascoltatori sono una cosa e chi chiama è un'altra. Sono certo, due, però io, sono due mondi molto distinti. Parte, io ho fatto l'ascoltatore per anni, ho chiamato solo una volta e probabilmente non lo farò neanche più. Stefano, però grazie. Ilaria da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Allora, io volevo parlare in merito alle pubblicità. Allora? Utilizzare un po' femminile per aumentare le vendite. Beh, non c'è dubbio. Lo legavo al fatto che ci sono uomini che pensano che comprandosi una bella macchina poi avranno una bella donna. Ma noi non ma chi lo pensa, Ilaria? Ma chi lo pensa? Chi lo pensa? I pubblicitari. E vabbè, qualcuno pensa di poter rimorchiare comprandoci una macchina. Si vende di più. Benissimo, qualcuno pensa di poter rimorchiare comprandoci. Ho capito, qualcuno pensa di poter rimorchiare comprandoci una bella macchina. Qui però la notizia del giorno è un'altra, qui adesso è appena uscita la lista. Allora, questo è un messaggio che inviamo noi donne. Ma chi se ne frega del messaggio? Di più, non sono le macchine che ci conquistano, ma quello che c'è dentro. Benissimo, questo qua lo sapevamo già. Però alcune donne sono alcune donne e alcuni uomini, alcune donne e alcuni uomini sono attratti anche dall'involucro, da quello che c'è intorno, e chi se ne frega, è legittimo pure questo, è legittimo. Beh, fa parte, anche fa parte. Benissimo, benissimo. Benissimo. Parenzo, che c'è? Quella notizia bomba, notizia bomba, perché è battaglia, tra il signor Della Valle e il signor Marchionne. Adesso siamo quasi in conclusione. No, ma questa è la questione fondamentale. Giampaolo D'Ascoli. Della Valle chiede che intervenga Napolitano addirittura. Giampaolo D'Ascoli. Addisca subito Parenzo, non si permette di parlare male del mio paesano Della Valle che si mangerà Marchionne. Ma no, anzi. Comunque non è. Ma l'ha capito, ho detto a favore. Non è questo il motivo per il quale chiamavo per l'Azzanardo, la quale ha approfittato subito dell'occasione per farci un po' di pubblicità gratuita, ma se invece di pensare alle donne della pubblicità che sanno benissimo quello che devono fare, perché non pensa alle difficoltà che hanno le donne che lavorano, che non possono seguire più la famiglia perché nessuno gli dà più un part time, perché non riescono a fare la mobilità, cioè, si interessasse a queste cose qua. E se me lo permettete aggiungo una cosa per quanto riguarda gli immigrati. Qui ci stiamo a lamentare tanto di quelli che arrivano in nave giù a Lampedusa, ma nessuno si rende conto che abbiamo aperto le frontiere della Romania e ci stiamo riempiendo di romani delinquenti che rubano rame e via dicendo. Questo non lo dice nessuno, quindi cerchiamo di... Lo dicono, non si preoccupi. Paolo da Belluno, buonasera Paolo. Sì, buonasera Cruciani. Vada, io, veloce. Semplicemente volevo dire che questa sera ero su internet, sono stato tacciato di maschilismo perché mi sono permesso di scrivere che se una donna si veste con un paio di shorts in qualunque contesto, poi non si deve stupire se qualcuno le fa delle avance o se meglio qualcuno cerca di stuprarla. Io proprio... Scusi un attimo, ma questo è un coglione. Lei devono dare del cretino, ma più questo che è un cretino, ma proprio pericoloso. Cioè, se una ragazza va in giro in shorts, in pantaloncini piccoli, proprio. Poi non si deve lamentare se la stuprano, ma lei è completamente deficiente. No, non ho detto che non si deve lamentare se la stuprano. Non si deve stupire. Ma questo è matto. Si deve lamentare, perché ovviamente qualunque... Paolo, ma come si fa a dire delle bestialità simili? Ma è una vergogna, ma lei veramente... Non c'è in terra quello che dice. Paolo, su, la smetta di dire queste stupidaggini. Una può andare in vestita, può andare anche in costume da bagno in giro Ma come no? Ma dov'è nel mondo dei talebani? A domani, 18:30, si vergogni, Paolo! Violento! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.